poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci, 800 24 00 24 per il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it, andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Convocato in procura il direttore dell'azienda sanitaria di Udine per valutare l'idoneità della casa di cura dove è stata interrotta l'alimentazione per Eluana Englaro. All'esame del Senato il disegno di legge che imporrebbe una ripresa dell'alimentazione di Eluana. Domani mattina il voto finale, poi passerà alla Camera che lo voterà mercoledì. 14enne aggredita e stuprata da alcuni compagni di scuola durante una festa in provincia di Brescia. Già arrestati 4 giovani, altri sono sotto inchiesta. Continua l'allarme valanghe sulle Alpi. A Cogne due scalatori, entrambi stranieri, sono stati travolti da una slavina. Uno è morto, l'altro è rimasto ferito. Bene, alle 18:39 andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Orrore nel Bresciano, una ragazzina stuprata dai compagni di scuola in Valsabbia. La invitano a una festa, bevono, poi in gruppo abusi e sevizie. 4 giovanissimi in carcere, coinvolti altri 5 ma non sono imputabili. Non hanno nemmeno 14 anni. Il GIP, atti di violenza animalesca. Battaglia dentro e fuori il Senato sulla legge per salvare Luana. In arrivo una valanga di emendamenti, democratici divisi. Dopodomani il voto finale alla Camera, ma per la ragazza potrebbe già essere iniziata la fase di non ritorno. La Chiesa annuncia scomuniche per chi favorisce la sua morte. Giallo nel torinese, aveva un appuntamento con il suo assassino, la 33enne massacrata in un bosco. Proprio oggi un amico della donna, riconvocato dai carabinieri come testimone, si è tolto la vita. Mi ammazzo per debiti, ha lasciato scritto, non l'ho uccisa io. Sono il nuovo incubo metropolitano, sempre più larghe e profonde, le buche aperte dal maltempo nell'asfalto sono trappole per auto e moto. Ecco, metro alla mano, quel che abbiamo trovato a Milano e in altre città grazie alle vostre segnalazioni. Bene, questi i titoli principali di Studio Aperto alle 18:40, vi ripeto il numero per intervenire, 800 24 0024. Certo, la si può pensare in mille modi, anche se si sono formati più o meno due partiti intorno al caso di Eluana Englaro, e però secondo me non bisogna nemmeno esagerare, lo fanno in molti, lo ha fatto secondo me oggi il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, che è interpellata a margine della presentazione di una proposta di legge sui casi di violenza sessuale, se ne è uscita in questo modo. Il sondino, il famoso sondino ormai sulla bocca di tutti, che collega Eluana Englaro alla vita, sostituisce secondo la Carfagna per comodità il cucchiaino della madre. Si dà da mangiare e da bere a una donna che purtroppo è in stato vegetativo ma non è morta, su questo non c'è dubbio, però il sondino che sostituisce per comodità il cucchiaio della madre è certamente un'immagine che colpisce, fa parte però secondo me anche un po' della speculazione politica di questi giorni, che inevitabilmente c'è, su una situazione che comunque è diventata tutta politica inevitabilmente. Si parla anche di attacco alla Costituzione, manifestazioni, raccolta di firme su internet. Io francamente non capisco dov'è il problema. C'è un Presidente della Repubblica, c'è una normativa sui decreti legge, c'è il Parlamento, c'è eventualmente una Corte Costituzionale, non si capisce dov'è il problema, e però si vede in quello che vuole fare il governo un attacco, a prescindere, ripeto, da come la si possa pensare, un attacco alla Costituzione. Perfino intellettuali di rango come Umberto Eco promuovono manifestazioni insieme a varie associazioni. Sentiamolo, Eco. Un attacco alla Costituzione, che è stato bloccato ma non ancora definitivamente dal rifiuto del Presidente della Repubblica di firmare questo decreto, ma già il tentativo di aver tentato di negare un dispositivo della magistratura attraverso un decreto dell'esecutivo, che è una bestemmia. Quindi noi siamo qui per questo, e non si deve fare confondere, voi siete qui per il caso Englaro, perché qui si apre allora un dibattito enorme che per il momento non ci deve interessare, perché tra i presenti ci potrebbero essere le opinioni più diverse e i casi di coscienza più diversi, mentre sull'attentato alla Costituzione tutte le persone che sono qui sono dello stesso parere. C'è un attacco alla Costituzione, Berlusconi vuole scardinare i principi della Costituzione, insomma vuole comandare da solo senza vincoli, senza la Corte Costituzionale, senza Napolitano, senza nulla, senza Parlamento. Da solo, questo pensa Eco, ma non solo Eco, un nutrito numero di intellettuali, una parte dell'opinione pubblica mobilitata per esempio dal quotidiano Repubblica con i suoi editoriali, eccetera, eccetera. Andiamo a sentire da questo punto di vista un'analisi un po' più politica, pragmatica. Cos'è che ha spinto Berlusconi negli ultimi giorni ad accelerare sulla vicenda Englaro? Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, dice che Berlusconi vuole recuperare il rapporto con la Chiesa. Sentiamo, interessante. Strumentalmente credo che la posizione del Presidente derivi anche dal fatto di dover recuperare un po' nei confronti anche della Chiesa sulla questione dell'immigrazione, sulla questione della lotta all'immigrazione clandestina, nei modi anche qui assolutamente reazionari nei quali questa... Perché la Chiesa non ha appoggiato la politica del governo sull'immigrazione. Assolutamente la politica del governo sull'immigrazione, soprattutto le ultime esternazioni, gli ultimi atti, gli ultimi tentativi di norme che sono stati introdotti. E questa è l'analisi di Cacciari. Ancora una parola, diciamo, contro il governo, contro la posizione del governo. Sapete che il voto finale di gran fretta ci sarà mercoledì alle 14. Credo non sia mai esistito un disegno di legge votato con tanta celerità. Naturalmente per evitare che la vicenda di Eluana precipiti. Andreotti, Giulio Andreotti, il grande vecchio della politica italiana, il quale dice è un problema privato ed è forse la posizione dei vecchi cattolici democristiani, non è detto in senso negativo, quello di considerare alcune cose, di fermarsi fino a un certo punto. Andreotti, è un problema privato quello di Eluana? Io posso avere tutte le mie opinioni personali, ma se ho una veste pubblica o anche un'opportunità che dinanzi a determinati temi stia zitto. Mi pare un problema in un certo senso privato, non è che è un problema che comporta una decisione pubblica, però sono modi di vedere opinabili, non sono dogmi né in questo senso né nel senso opposto. Prima del traffico andiamo a sentire un'altra voce contro la posizione del governo, che è quella del giurista Stefano Rodotà, che prende spunto proprio dalla vicenda Andreotti. Se tutti diamo per assodato, dice Rodotà, che Andreotti sia stato assolto perché c'è una sentenza della Cassazione, anche in questo caso c'è una sentenza della Cassazione. La Cassazione ha assolto Giulio Andreotti e noi non stiamo oggi a dire ma la Corte d'Appello di Perugia, ma la Corte d'Appello di Palermo. Noi stiamo al giudicato finale. Ci sono stati, lo so benissimo, ho seguito in ogni dettaglio la vicenda di Eluana Englaro davanti ai giudici, ma oggi c'è la Corte Costituzionale, due decisioni della Cassazione, la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, che nell'ultima fase sono stati tutti concordi. Anche che vuol dire? Un momento. Che i giudici sono stati estremamente scrupolosi. Stacchiamoci per un attimo dalla vicenda di Eluana Englaro, perché nel weekend è successo qualcosa di clamoroso, perché siamo in Italia e i lavori pubblici, come sapete, la costruzione delle strade è una cosa lunghissima, ci sono opere che attendono da decenni, eppure è stato inaugurato dopo 20-30 anni tra progetti, stop, eccetera, eccetera, il famoso passante di Mestre. Come avete sentito poco fa della notizia sul traffico, forse, e sentirete forse nei prossimi giorni, non ci saranno più le famose code sulla tangenziale. Danilo Vendrame, Confartigianato Trasporti del Veneto, camionista, buonasera. Buonasera. Vendrame, senta, da quanti anni lei era invischiato in questa tangenziale di Mestre? Quanto ha patito? Sono 30 anni che faccio il camionista e purtroppo la tangenziale di Mestre la devo percorrere 3 volte in un senso e 3 volte nell'altro, cioè 6 volte al giorno. Per cui per lei è stato un incubo? Specialmente gli ultimi 4-5 anni, quando il traffico dell'est è aumentato in maniera esponenziale, era un incubo veramente, cioè rimanevi là un'ora, un quarto, un'ora e mezza, stop and go. Senta, questo passante che è stato inaugurato l'altro giorno, che non è figlio di questo governo naturalmente, ma è figlio di una serie di procedure lunghissime che hanno coinvolto tantissimi governi, non siamo qui a fare spot naturalmente, quanto cambia nella sua vita? cambia che ci sono tre ore in meno, almeno tre ore in meno di lavoro al giorno, di occupazione, non di lavoro, perché non era remunerato, la coda non è remunerata, noi siamo pagati a quintale chilometro, quindi non è remunerato. E lo stress in maniera impressionante. Speriamo, speriamo che questo abbia un impatto su tutti quegli incidenti che erano appena dopo la tangenziale, cioè quando si riprendeva l'autostrada, specialmente la 4, che cambiava la tensione nervosa perché i mezzi non facevano più stop and go, ma a velocità costante, rumore costante, e c'erano tutta quella serie di incidenti spaventosi di cui voi avete sempre documentato. Senta Vendrame, l'attesa è stata lunga, secondo lei la responsabilità di tutti questi anni di attesa, di lavori negli ultimi 4 sono stati, gli ultimi 4-5 sono stati molto, molto spediti, la responsabilità lei a chi la addossa? A politici incapaci, allora, alla burocrazia complicatissima, ai ricorsi, alle comunità locali, ai verdi, all'estrema sinistra, non so a chi? No, alla politica, proprio alla politica che non sapeva, cioè la politica si è sempre o quasi sempre autoalimentata, quindi quando c'è un qualcuno che dice un qualcosa c'è sempre un qualcuno che dice il contrario, allora creiamo un tavolo e cominciamo a discutere, è la cosa più moderna per dire non facciamo assolutamente niente. Però anche quindi, ascoltando le comunità locali alla fine si è arrivati ad una soluzione, no? Sì, perché bisogna, il commissario Vernizzi, che era il commissario straordinario, sì, era una persona favolosa ed è riuscito a capire e comprendere tutte le esigenze che c'erano. Naturalmente dopo ha dovuto tirare un sunto, però prima ha sentito tutti quanti e dopo ha deciso, ma prima ha sentito tutti quanti e di veramente non contenti ce ne sono molto pochi. Tenete presente che sì, quello che vedremo sarà quello che vedremo, non quello che abbiamo visto. Cioè, levando il traffico, avendo i camion a velocità costante, l'inquinamento diminuirà in maniera esponenziale. Tenete presente che gli studi dell'Iveco dicevano che un Euro 3, che sono la maggioranza dei veicoli, un Euro 3 inquina 20 volte meno di un Euro 0. Ma se va sotto la temperatura, perché fa lo stop and go, va sotto la temperatura la marmitta, questo inquina 50 volte in più di un Euro 0. Ah, non c'è dubbio. Senta, vedremo una cosa. C'è qualcosa che non va, però, mi diceva prima al telefono, prima del collegamento. Cioè, sì, ci sono delle cose che non vanno. Per esempio, i caselli ancora non ci sono. Bisognerà aspettare alcune uscite di questo passante. Cos'è che non va? Bisogna rendere permeabile sul territorio intanto quel passante. Cioè, fare i caselli dovuti, con i dovuti svincoli, eccetera. Lì un appello ai sindaci: non cominciate a mettere divieti da una parte e dall'altra per ritica con il comune vicino. E questa è una cosa. La seconda cosa: ci deve essere un'area di sosta. Venendo da Milano fino a Cessalto non c'è un'area di sosta. C'è un altro d'asfalto di circa 60 km senza nessun'area di sosta. Non è possibile. Uno si deve poter fermare, anche per legge si deve fermare, certo, 60 certo. Km per noi significa quasi un'ora. L'ultima cosa è che i locali si può dire, come si dice in italiano, cornuti e mazziati, cioè? Perché per finanziare il passante e rendere meno appetibile anche il transito in tangenziale ai caselli che corrispondono alla tangenziale, cioè di Roncade, di Mogliano-Veneto, sì, e di Villa Buona, è stato aumentato in maniera esponenziale il pedaggio, cioè è stato prolungata in maniera virtuale la tratta, aumentando di quasi 3 euro per transito un trasporto pesante. Non va bene questo? Ecco, questo potrebbe andare bene, e va bene perché comunque pagano, però i locali che devono sempre fare, bisogna studiare un qualche sistema per riuscire a rimborsarli. Un automezzo in quella che fa come me, fa la tratta Treviso-Marghera e passa da Mogliano, ma gli altri, ci sono 3 euro a viaggio, sono 3 viaggi al giorno, sono 10 euro, se lei moltiplica 10 euro per 200-220 giorni lavorativi sono quasi 2500 euro a camion che si devono pagare in più per finanziare il passante. Ho capito, la ringrazio Vendrame, grazie. 18:53, 800 24 00 24. Andiamo a Napoli da Giovanni, buonasera Cruciani. Io naturalmente volevo trattare il tema di Englaro. Io sono uno di quelli che sostiene che l'eutanasia, perché stiamo parlando, è una prassi che viene non da anni ma da millenni, solo che non si fa, non si può basare uno Stato su questo tipo di cultura. C'è bisogno della responsabilità per un atto del genere, che deve essere personale. Voglio dire, in poche parole, che se il padre di questa ragazza reputi che sia il caso che questa smetta di vivere, è un'affermazione dura, io me ne rendo conto, Dio non voglia mai... Bisogna seguire la volontà del padre. Sì, no, assolutamente, è il padre che deve prendersi la responsabilità di quest'atto, non è che lo deve conferire e delegare ad una terza persona. E chi sarebbe questa terza persona? Sono i medici che fanno le cose, non è che lo può fare il padre direttamente. Ma in questo caso è lo Stato, si può dire poi, dopo questa sentenza sarà lo Stato, è questo che bisogna assolutamente evitare. Sì, guardi Giovanni, naturalmente su questo tema ci sono le idee più discordanti, c'è chi, io la penso così, per esempio, esattamente come scrive Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, chi pensa che invece un intervento legislativo su cose del genere sia difficile da definire. La ringrazio, andiamo a Macerata. Roberto, buonasera. Sì, salve Cruciani. Dica. Volevo parlare di un fatto. Tutto questo parlare della Englaro, a chi sta dando una mano? Cioè, quali argomenti non vengono toccati in questo periodo? Perché lei vede sempre una dietrologia? Si parla troppo del caso Englaro per coprire altre discussioni? Non capisco, è un caso di grande importanza culturale, non solo, è un caso tragico che riguarda una vita umana, ci sono questioni di principio, questioni legislative, cosa c'è di nascosto dietro? Non capisco. No, non è una dietrologia, è che sono stati lasciati, secondo me, indietro altri argomenti che erano comunque interessanti, tipo la figura bruttissima che abbiamo fatto sul piano internazionale, l'abbiamo fatta sia noi che il Brasile, del fatto Battisti. Non se ne è più parlato da quando Battisti ha detto che è stato mandato in Brasile dai servizi segreti francesi. Sì, mi scusi, però perché lei dice non se ne è più parlato? Non sarà più in prima pagina, è il corso normale delle notizie, vedrà che domani c'è la partita, poi ci sarà la decisione della Corte Suprema brasiliana, si tornerà a parlare del caso Battisti, insomma si discute un po' di tutto, non vedo, anche qui non vedo il punto. Michele da Napoli, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? La sento, dica pure. Sì, buonasera, su Englaro. Sì. Allora, guardi, io chiarisco subito la mia posizione, io sono stato a favore del caso Welby. Sì. Perché c'era una chiara volontà della persona nell'interrompere una certa cura, e sono all'inizio non lo ero, ma adesso, essendo indocumentato, sono contro questa situazione di... Cioè contro la volontà del padre perché Luana rimanga viva, diciamo. Il problema è molto serio, nel senso che si istituirebbe il principio che per volontà presunta può essere interrotta la vita di una persona. Eh sì, il problema è proprio questo, anche se c'è una sentenza che dice che addirittura seguendo gli stili di vita si può arrivare a determinare la volontà di una persona. La ringrazio, TG3. E Luana al Senato comincia l'esame del disegno di legge, domani il voto, mercoledì alla Camera, in piazza manifestazioni contrapposte. Continuano gli accertamenti nella clinica di Udine dove è ricoverata Luana, i responsabili della casa di cura assicurano siamo in regola. Sarkozy alle case automobilistiche francesi, mega prestito da 6 miliardi e mezzo, in Giappone Nissan taglia 20.000 posti di lavoro. La crisi tocca anche l'alta moda, la società che possiede il marchio Ferré sull'orlo della bancarotta chiederà all'amministrazione controllata. Sempre più gravi gli incendi che stanno devastando l'Australia, trovati altri corpi carbonizzati, sono già più di 170 i morti. Le mani dei casalesi sulla capitale, decine di arresti, la camorra controllava il mercato delle auto, decisive le intercettazioni. A New York, anteprima di I Love Shopping, il film che prende in giro le signore pazze per gli acquisti, ma la grande mela è diventata la capitale della crisi. Uno dei leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, la pensa così sul caso Englaro, lo ha detto intervenendo a una manifestazione del Partito Democratico a Grosseto. E se la mette giù pesante Bersani significa che c'è battaglia grossa, e comunque il Partito Democratico, che ha appena annunciato di votare no al disegno di legge sulla vicenda Englaro, lasciando però un dissenso, la possibilità di dissentire a chi nel gruppo è contrario, insomma, si sta impegnando in una battaglia spostandolo soprattutto sulla dittatura, sul pericolo della dittatura berlusconiana. Dice Bersani: un paese dove il governo legifera solo per decreti e il Parlamento è convocato dal governo solo per approvarli non è una democrazia ma una dittatura. E ricorda Berlusconi che tanti anni fa molte persone hanno dato la loro vita per garantire la democrazia in questo paese. Andiamo a sentire i titoli di Sky. Eluana, corsa contro il tempo del DDL in Parlamento, mercoledì il voto finale. La donna da 4 giorni senza cibo né acqua, cortei alla casa di riposo di Udine. Accertamenti dalla procura e la regione, la clinica si difende, siamo idonei. A Brescia, ragazzina stuprata da 4 compagni, altre 5 minorenni coinvolti. Le mani della Camorra nel Lazio, 40 arrestati legati al clan dei Casalesi. L'Unione Europea convoca un vertice straordinario per fronteggiare la crisi. Obama contro la recessione, il nostro piano salverà milioni di posti di lavoro. Vigilia di voto in Israele, nei sondaggi Netanyahu in lieve vantaggio sulla Livni. Gli incendi fanno strage in Australia, 170 morti, caccia ai piromani. Il Chelsea esonera Scolari, corsa alla successione alla corte di Abramovic. Bene, 800 24 00 24, un numero per chiamarci in diretta, partecipare con noi alla nostra discussione, dire la vostra fino alle 20.45 alla Zanzara. Vi faccio ascoltare come Emma Bonino ha inaugurato questa sera la seduta della Camera, si voterà domani e dopodomani invece del Senato, scusate, domani al Senato e dopodomani alla Camera, sulla vicenda Englaro. Ha parlato di Stato etico. E ricordate, signori della maggioranza, che quando uno dice io non lo farei e improvvisamente diventa e quindi nessuno lo deve fare, questo è lo Stato totalitario, questo è lo Stato etico, questo è l'inizio che voi ci presentate. Questa la Bonino, lo Stato etico, quando lo Stato arriva praticamente dentro la camera di ospedale e influisce sulle scelte di una persona, questo secondo la Bonino naturalmente, non si scherza su queste cose, dunque un ascoltatore, per carità, tutte le provocazioni sono ammesse anche in questa trasmissione, miracolo, Eluana è viva, ha ripreso tutte le sue funzioni vitali, firmato Vaticano, mi scrive un ascoltatore, ma andiamo a sentire Umberto Eco che dice bisogna dare uno schiaffo a Berlusconi perché sta violando la Costituzione. Umberto Eco in manifestazione davanti al Senato, non so dove fosse. Dico che il Presidente del Consiglio fa un po' come quei signori che tentano con una ragazza, allungano un po' le mani, vanno avanti, dice se mi dà uno schiaffo mi fermo, se no vediamo sino dove posso andare avanti. Ecco, lui fa un po' con noi così, quindi forse uno schiaffone bisogna dargli. Uno schiaffone bisogna darglielo, va bene. Hans Küng è uno dei grandi teorici, filosofi, teologi della Chiesa Cattolica, spesso in dissenso con la posizione di Giovanni Paolo II, dice che la Chiesa deve ubbidire alle leggi dello Stato. Sentitelo, insomma, non è una persona qualunque, Hans Küng, tedesco. In una democrazia, in uno Stato democratico, anche la Chiesa, le autorità ecclesiastiche devono ubbidire alle leggi, devono ubbidire alla Corte Costituzionale, e in questo senso penso la questione decisa, e non capisco perché la Chiesa mette su pressione il Primo Ministro. Io spero che il Presidente dello Stato rifiuta un tale intervento. Non capisco perché, avete sentito, dice Hans Küng, la Chiesa mette sotto pressione il Primo Ministro. Andiamo a sentire Sgarbi, noi passiamo da Hans Küng a Sgarbi, che come bestemmiare un po', però ci è consentito, ci è permesso. Vittorio Sgarbi sulla vicenda Englaro, ospite di Antonello Piroso, niente di personale, sentite Sgarbi. Va letto in questi termini, per uno che ha fede, ed è lecito averla, immagino che alcuni ce l'abbiano, molti ce l'abbiano, esiste il miracolo. Improvvisamente, come quando vai a Lourdes, può capitare che Dio in persona intervenga, non Napolitano che si comporta come se fosse Dio, ma Dio. Per chi crede nella scienza, nell'arco di 3 anni, anche Iannacci lo pensa, si possono fare delle scoperte tali che può risorgere. Quindi chi crede alla ragione e non alla fede, e non ha fede, deve sperare che la scienza vada così avanti come si trova il vaccino dell'AIDS. Io la sto ascoltando nel senso che la sua per l'appunto è la sua opinione. È l'opinione però che stabilisce che sia per una ragione sia per l'altra non possiamo lasciare che a decidere della vita sia un tribunale. Sgarbi contro i tribunali non è una novità. Però lui dice uno può essere cristiano e sperare nei miracoli, può essere invece laico e sperare che la scienza vada avanti. In ogni caso non bisogna interrompere, questo voleva dire Sgarbi, l'alimentazione e l'idratazione. Sentiamo Berlusconi che nel fine settimana ha detto qualsiasi cosa, ha parlato soprattutto della vicenda Englaro a margine dei suoi comizi, mettendosi nei panni del padre. Sentite. Mi sono messo nei miei panni di padre. Se uno dei miei figli fosse lì vivo con un cervello che dà ancora segnali elettrici, io francamente non me la sentirei proprio di dire non sarà possibile che questo cambi. E se fra un anno venisse fuori che c'è la possibilità di dare uno stimolo per cui chi è in stato vegetativo ritorna ad avere tutte o parte delle sue funzioni. E sempre Berlusconi la mette su questo piano: lo statalismo è la morte e la libertà è la vita. Cioè ci sono due partiti che si stanno contrapponendo in queste ore, quello della vita e quello della morte. Ecco, a me sembra che veramente non ci sia altro che la voglia di togliersi di mezzo una scomodità, ecco tutto qua, e credo che la vita sia più importante. Lo ripeto, è un fatto proprio di cultura. Io sto con la libertà e sto con la vita, altri stanno con lo statalismo, con lo Stato che si impone nella vita degli uomini e con la morte. Ora, insomma, non capisco in questo caso lo statalismo con la vicenda Englaro cosa c'entri, però, anche perché le stesse accuse di statalismo e di intromissione nella vita privata e nelle scelte viene fatta da chi non la pensa come Berlusconi. Tutto si confonde in questo marasma, in questa speculazione politica. Andiamo subito a Milano da Antonio. Buonasera Antonio. Ah, buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Dica pure, grazie. Sì, volevo solo dire che in effetti io mi metto veramente nei panni del papà di questa ragazza che deve avere un dolore nel cuore immenso. Ho visto le scritte lì davanti a questa clinica, Peppino Boia, dico ma come si fa ad arrivare? Il fanatismo cattolico dovrebbe avere, come dire, un buon senso rispetto alla volontà privata già manifestata, già riconosciuta da una sentenza della Cassazione. Dico, tutti noi dovremmo arretrare e rispettare la volontà, l'ultima volontà che questa ragazza Eluana ha manifestato al proprio padre. Credo che ci sia anche un ultimo gesto di amore che il padre voglia compiere nei confronti della propria figlia. Io proprio volevo citare proprio questo teologo che è stato intervistato dall'Annunziata questa domenica. Sì, Hans Küng, quello che abbiamo ascoltato. Esatto, ecco, un nome difficile, lei riesce a ripeterlo, io no. Ma non è particolarmente difficile, comunque Hans Küng è un noto teologo tedesco. La scritta Beppino Boia, la ringrazio Antonio, effettivamente fa parte di quelle manifestazioni certamente spontanee che qualche volta possono arrivare ad estremismi assurdi. È certamente un cretino chi scrive sul muro di una clinica Peppino Boia riferendosi a Peppino Englaro. Franco da Firenze, prima della borsa. Franco, prego. Dottor Cruciani, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Ascolti, io mi ero prefisso di non chiamare, l'argomento è sulla ragazza e Englaro, ma e quindi non entro nel merito del sì, del no. Io vorrei fare una domanda molto tecnica, ma se ora si dovesse tornare indietro, non sarebbe un'ulteriore violenza su questa creatura? Beh certo, dal punto di vista medico, Franco, non abbiamo certezze, non possiamo sapere se a un certo punto verrà mercoledì quando la legge sarà in vigore, se viene interrotto di nuovo il procedimento che ha tolto l'acqua e l'idratazione, non possiamo sapere quali saranno le conseguenze sul corpo di Eluana Englaro. Siamo praticamente in una corsa contro il tempo in cui tornare indietro non si sa bene quali danni potrebbe produrre. La ringrazio Franco. Bene, 19:33 minuti in questo momento, 800 24 00 24. Naturalmente vorrei sentire, dopo l'intervento del camionista di prima in apertura della trasmissione, tantissimi camionisti questa sera che stanno attraversando magari per la prima volta il passante di Mestre, che ha risolto diversi problemi, un po' per sentire da loro le sensazioni di quello che avviene, se davvero la vita è cambiata a partire da domenica scorsa, cioè da ieri. Andiamo a sentire allora Franco da Firenze per la conclusione del suo intervento. Franco. No, di nuovo la ringrazio moltissimo. Il mio intervento verteva appunto in questo. Mi pongo la domanda che qualora tutto ciò in questo momento, già da 4 giorni che si sta sospendendo a livello di terapia, di liquidi, di cose, dovesse ricominciare, sarebbe una violenza in una situazione devastante come quella che è. Ecco, questo semplicemente. Non è un giudizio, per carità. No, Franco, ma su questo, come le ho detto prima, ci sono grandi dubbi. C'è chi dice che si può tranquillamente riprendere la somministrazione di cibo e l'idratazione senza problemi, c'è chi dice invece che è oltrepassata una certa soglia che nessuno riesce a identificare con certezza, probabilmente la sanno solamente i medici che seguono passo passo questa vicenda all'interno della clinica La Quiete. E la situazione è poi compromessa. La ringrazio. Un ascoltatore mi dice: chiacchiere, non c'è la certezza assoluta della volontà, il padre soffre, forse vuole smettere di soffrire, ma la madre dov'è? Per quello che riguarda questo ascoltatore, lo invito a leggere un articolo molto bello, anche molto struggente, di Cristiano Gatti, venerdì scorso, se non sbaglio, il 6 di febbraio, sul giornale. Saturna Englaro, così si chiama la mamma di Eruana, la moglie di Beppino Englaro, la mamma che si consuma nell'ombra. Mentre il papà combatte l'ultima battaglia, la madre sta malissimo e Beppino le fa da scudo. Comprava alla figlia biancheria, abiti di pregio, perché doveva essere bella anche mentre dormiva. E c'è un racconto molto bello sul rapporto che c'era e probabilmente c'è ancora tra la figlia e la mamma, che si sta consumando nell'ombra, per quello che insomma immaginate, per un male incurabile. 19:35, andiamo a Milano da Sergio. Buonasera. Buonasera. Due cose velocissime, proprio per dare due spunti magari per la discussione. La prima è: io non capisco perché ci si ostina a parlare di eutanasia quando questo chiaramente non è eutanasia, ma è rifiuto delle cure, che è una cosa completamente diversa dal suicidio assistito. E la seconda è: se il governo è veramente così forte e così convinto di avere dalla sua parte il Parlamento, o comunque la sua maggioranza, perché non dimostra tale forza proponendo lo scrutinio segreto? Guarda che ci sarà lo scrutinio segreto, Sergio. Ah, ok. Allora, si voterà a scrutinio segreto. Allora sarà curioso vedere come andrà a finire, perché molte parti, mi sembra di capire che molte parti anche del centrodestra sono assolutamente contro questa cosa, pur non manifestando. Ma io non credo che ci saranno problemi per quello che riguarda questo disegno di legge, che è fatto di un solo articolo, anche perché l'UDC è nettamente favorevole, anche settori del Partito Democratico, per cui insomma non credo ci saranno sorprese. Poi su una cosa così, diciamo tra virgolette, importante, su cui il Berlusconi si gioca molto anche del suo rapporto politicamente parlando con il Presidente della Repubblica, ha detto: io approvo una legge in 3 giorni, e insomma mi pare l'esito mi pare scontato, nonostante il voto segreto, Sergio. È una cosa importante quella di cui si sta parlando, non è una cosa meramente politica, cioè si sta parlando di entrare in casa, entrare nella vita delle persone, per cui un conto è concezione politica, essere convinti, portare avanti un'idea, eccetera, un conto è venire a dire, ad imporre, ok, magari un po' forte, però andare a decidere per legge cosa è vita, cosa non lo è, fino a che punto è. Sembra quasi andare a prendere un caso di specie per poi allargarlo a un caso generale, cosa che nella legge non è mai esistita. Al massimo si parte dal caso generale per poi essere interpretata e quindi fare caso di specie. Per cui mi sembra un po' forte la forzatura, cioè, scusi il gioco di parole, mi sembra un po' forte il forzare comunque il governo, l'esecutivo, soprattutto in un momento così, andare con una fretta che poi di solito quando le cose si fanno di fretta si fanno pure male, per poi non sapere bene a che conseguenze si va incontro. E soprattutto, io non sono un elettore né di destra né di sinistra, però non lo so che fine che piega prenderebbe il governo nel caso in cui a scrutinio segreto non passa questa cosa. Beh, certamente per il governo sarebbe un colpo molto, molto forte, ed è per questo che la cosa è praticamente impossibile che si verifichi, soprattutto considerati i numeri. Guardi, si sta votando sostanzialmente su un articolo che verrà corretto poi. L'articolo recita in questo modo, è molto semplice, sono 4 righe. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi. Poi c'è un secondo articolo, anzi no, c'è un secondo comma: la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Siccome era stato scritto sospensione, non possono in alcun caso essere sospesi, in questo caso sono state sospese, interverrà una correzione per applicarla proprio al caso Englaro. Dunque, per rispondere a quello che diceva lei, Sergio, è proprio una norma ad personam. Naturalmente poi si estende a tutti i casi, e da questo punto di vista i radicali dicono: appunto, state entrando nella stanza dell'ospedale di ognuno di noi, impedirete a chiunque voglia poi interrompere l'idratazione e la somministrazione di cure a farlo con questa legge. La ringrazio. Andiamo a Pescara, Christian. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Senta, io volevo uscire dal discorso Englaro e entrare nel tema delle infrastrutture. In pratica ho sentito, grazie a Dio, abbiamo visto tutti, insomma, che hanno aperto questa passante di Mestre. Io invece pongo il problema del sud, perché almeno una volta a settimana scendo giù in Sicilia da Pescara. È una cosa vergognosa sentire parlare politici, destra, sinistra, è indifferente, di ponte sullo stretto. Io invito chiunque a fare il tratto per andare in Sicilia dall'Adriatica, arrivare fino a Taranto e poi scendere fino a Sibari se si vuole fare un pezzo di Ionica e riprendere la Salerno-Reggio Calabria, oppure continuare a fare la Ionica per rientrare a Lamezia. Io sto passando adesso Paola, sono partito da casa da Pescara a mezzogiorno, devo imbarcare a Villa San Giovanni, è una cosa vergognosa, vergognosa. Soldi per le infrastrutture che non si sa che fine hanno fatto e si parla di ponte sullo stretto. Ma sanno i politici a che condizioni si arriva sullo stretto prima di imbarcare? Non c'è un bagno, non c'è, ore di attesa inutilmente, cioè non si sa per quale motivo. E il biglietto costa anche caro, 200 euro per fare un'andata e ritorno di nemmeno 5 chilometri. Cosa vuole? Cristian, io condivido tutta la sua predica, tra virgolette, sui trasporti del sud. Naturalmente non sono d'accordo sul fatto che il ponte venga dopo, perché questo secondo me è un caso di benaltrismo, non il suo naturalmente, questo tipo di ragionamento, ma andremo per le lunghe e la ringrazio. Condivido naturalmente tutto il dramma che lei sta vivendo, essendo partito da Pescara, adesso si trova a Paola. La situazione sull'autostrada, come anche se lei si trova a Paola, non precisamente sull'autostrada, perché Paola non è sull'autostrada. Si è obbligati a uscire a Cosenza e la strada è quella che è. Cioè... Ma perché è obbligato a uscire a Cosenza? È ancora interrotta? È ancora interrotta perché il tratto è ancora sotto sequestro da Rogliano al Tiglia Grimaldi, e le strade che si facevano prima all'interno, sì, che permettevano di rientrare ad Altiglia, sono franate anche quelle. Cioè da Rogliano per scendere verso Altiglia strade interne sono crollate, cioè sono strade, insomma, degli smottamenti che impediscono il passaggio. Ora io per fare un tratto di 40 chilometri, diciamo quella che loro chiamano autostrada, la Salerno-Reggio Calabria la chiamano autostrada, sì, io ho impiegato, cioè sto impiegando fino adesso per fare la metà dei chilometri, ho impiegato un'ora e mezza per fare 25 chilometri. Va bene, la ringrazio Christian, non le posso augurare buon viaggio perché sarebbe quasi beffardo, e andiamo a Modena da Vanni, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Niente, volevo fare una riflessione sul caso Englaro. Cioè, da tutto questo una nota positiva forse se la può ricavare, nel senso che la politica quando vuole qualcosa di veloce lo riesce a fare. E allora magari lo potrebbe fare anche contro la mafia, contro la camorra, contro... Questa era la mia riflessione. Se lei dice la politica dovrebbe utilizzare, dovrebbe essere più veloce anche quando si tratta di prendere provvedimenti per quello che riguarda la criminalità organizzata, eccetera. Esatto. Non so, cioè, secondo lei questa velocità è sospetta? Com'è? Questa velocità nell'approvare per esempio questo disegno di legge ritagliato sulla vicenda di Eluana Englaro è molto sospetta, questa velocità. Molto sospetta, ma è una cosa positiva, se riuscissero a farlo anche su altre cose sarebbe buono. Non so, tempo fa parlavano delle centrali nucleari, a parte che io sono contro, però se questo se quello che vogliono fare, che lo facciano. Sì, no, il caso delle centrali nucleari è un po' più complicato, però c'è un paradosso in questa vicenda, la ringrazio di avermi posto questa questione, Vanni, perché come sapete l'opposizione sta gridando adesso alla dittatura, allo stravolgimento delle regole, e vabbè, fa parte del gioco, insomma, fa il suo gioco Berlusconi e fa il suo gioco l'opposizione. Però è un po' bizzarro, perché abbiamo sempre chiesto, no, una velocità nei provvedimenti, la rapidità, il governo che decide, un governo che insomma non ha più le briglie di un Parlamento che vive di regole antiquate, eccetera eccetera. Quando c'è questa velocità non va bene, si grida alla dittatura. Questo a prescindere dalla vicenda Englaro e a prescindere dal fatto che ci sia Berlusconi o ci sia un'altra persona come capo del governo. Un ascoltatore che si chiama Marco mi scrive una bella mail: credo che sulla stampa di oggi il professor Grosso abbia definitivamente svelato il trucchetto che Berlusconi sta usando in questi giorni sul caso Englaro. Non c'è nessuna corsa contro il tempo, battaglia fra chi vuole la vita e chi vuole la morte. Nessuno sconto tra eutanasia e vita. C'è un vuoto di legge, colpa del Parlamento che non ha mai fatto la legge sul testamento biologico. In pratica non si è mai realmente voluto che lo Stato liberale facesse quello che doveva fare nell'interesse di tutti i cittadini. Oggi a Vicenza ho incontrato un altro professore che si chiama Ellero, ci scrive questo ascoltatore, che più o meno sostiene le stesse cose. E va bene. Io non vorrei mai che Berlusconi stia usando il caso Englaro come prova generale per fare la stessa cosa quando arriverà la sentenza collegata al caso Mills. Sarebbe una cosa grave, sarebbe una di quelle botte che fanno veramente male. Ora, a me questo collegare, per carità, poi questo ascoltatore avrà ragione, non lo so, collegare addirittura la vicenda Englaro con il caso Mills, e dunque nell'intenzione di Berlusconi ci sarebbe uno stravolgimento generale delle cose per arrivare a una sorta di, non so, di colpo di Stato se dovesse arrivare alla sentenza Mills, che in realtà potrà arrivare solamente su Mills e non su Berlusconi, mi sembra bizzarro, mi sembra dietrologia, e però ci sta anche questo nella discussione, per carità. Con l'ingegner Silvano Vernizzi, che è commissario straordinario al passante di Mestre, che saluto, buonasera. Buonasera. Vogliamo invece parlare di una cosa positiva della politica, perché non c'è dubbio, nonostante impedimenti, lungaggini, cose assurde durate 20 anni, in poco più di 4 anni si è arrivati ad una soluzione per il passante di Mestre. Come ci si è riusciti? Lei è considerato una sorta di deus ex machina, Vernizzi? Beh, insomma, non esageriamo, io ho lavorato insieme a una squadra, ci siamo riusciti, i lavori sono iniziati l'11 dicembre del 2004 e ieri, quindi 4 anni e 2 mesi sostanzialmente, ieri pomeriggio l'abbiamo aperto al traffico. Ecco, 4 anni e 2 mesi, ma io dico, in che modo? Convincendo quelli che erano contrari, la popolazione locale, i comitati, anche spronando la politica? Mi dica un trucchetto che ha usato. Allora, chi ha fatto partire il passante di Mestre risolvendo un sacco di cose per gli abitanti del Veneto, ma non solo per gli abitanti del Veneto, si chiama Silvano Vernizzi, è commissario straordinario proprio al passante di Mestre. Mi dice il trucchetto che ha utilizzato, Vernizzi? Ma il trucchetto, quando siamo partiti, su 13 comuni coinvolti, 8 hanno fatto ricorso al TAR proprio contro la mia nomina come commissario, quindi una posizione direi muro contro muro. Siamo partiti, poi abbiamo iniziato un ragionamento con i comuni, con i comitati dei cittadini, svariati comitati che si erano costituiti, beh, insomma, un po' alla volta, diciamo che c'è stata una convinzione generale che l'opera doveva essere fatta con tutte le mitigazioni possibili. Mitigazioni, arrivati... mitigazioni significa anche indennizi, eh? Sì, non c'è dubbio. Siamo arrivati, le dicevo, venerdì scorso, l'ultimo ricorso dei comitati contro il passante è stato ritirato tranquillamente. Anche gli indennizi, ecco, sugli espropri abbiamo utilizzato, diciamo, un accordo particolare. Noi abbiamo fatto un accordo con le associazioni del mondo agricolo, CIA, col diretti Confagricoltura. Chi faceva l'accordo bonario aveva un indennizzo pari a 3 volte il valore agricolo, l'80% pagato subito al momento della firma dell'accordo, il 20% poi al frazionamento. E le case, e ne abbiamo dovuto demolire 70, pagate a valore di ricostruzione. Anche questo penso sia stato un meccanismo, insomma, per accelerare, per risolvere dei problemi. Eh beh, perché bisogna essere chiari su questo. In alcuni casi, siccome la costruzione di una strada, la costruzione di un'opera è naturalmente invasiva per chi si trova nelle vicinanze, per chi si trova addirittura sotto, comunque per chi ha case, terreni interessati, bisogna che lo Stato metta dei quattrini, o bisogna che chi costruisce metta dei soldi. Inutile nasconderci dietro le ipocrisie, no? Ma non c'è dubbio, perché è chiaro che la strada serve alla collettività, ma il singolo che viene colpito, fra virgolette, cioè espropriato, eccetera, ha diritto di essere pagato, di essere pagato il giusto, perché altrimenti si fa contenzioso, ricorsi, avanti, le opere non si fanno e poi alla fine l'opera costa ancora di più proprio per i ritardi e per i contenziosi che si creano. Senta, lei ha avuto appoggi, lei è uno dei pochi casi, ce ne saranno tantissimi, magari non li conosciamo, perché lei è un funzionario sostanzialmente della Regione Veneto, non è che l'hanno presa così dall'esterno per fare questo mestiere. Ha avuto un appoggio, possiamo dire, bipartisan, oppure ha trovato resistenze da parte di settori, insomma, che sono tendenzialmente contrari alle opere pubbliche? Mi racconti un po' la politica, se l'ha sostenuta, se l'ha ostacolata, che è successo? Io direi che in Veneto c'è stato un appoggio bipartisan, nel senso che dal Consiglio regionale a grandissima maggioranza, insomma, e poi anche all'amministrazione provinciale di Venezia, all'amministrazione provinciale di Treviso, quindi realtà politiche di diverso orientamento, il passante lo volevano, lo sentivano come una necessità, e anche questo ovviamente ha favorito molto i tempi e la celerità di realizzazione. Ecco. E anche associazioni ambientaliste, di solito molto contrarie, WWF, Italia Nostra, come si sono poste? Le dico, all'inizio muro contro muro, poi abbiamo ragionato, sì. Diciamo che nel ragionamento abbiamo anche migliorato da un punto di vista ambientale d'opera, perché non è mica... cioè sono state ascoltate ovviamente fino a quanto era possibile, sì. Le dico, alla fine hanno ritirato il ricorso ritirato venerdì scorso è proprio dei comitati di Italia Nostra e del WWF. Sento un'altra cosa, un ascoltatore mi chiede proprio in diretta, chiede all'ingegnere come mai hanno aperto con un ritardo di circa 270 giorni dalla data prevista. Gianluca D'Asti, che è successo? Allora guardi, la conclusione contrattuale quando siamo partiti era il 2 maggio del 2008. Proprio all'inizio dei lavori la Commissione Nazionale Via ci ha imposto una variante per uscire da un SIC, SIC vuol dire sito di interesse comunitario. Questa variante ha comportato un ritardo grosso modo di 5-6 mesi. E chi l'ha voluta questa variante? La Commissione Nazionale Via, valutazione di impatto ambientale. Quando? Dunque siamo ancora nel 2005. Decisione politica secondo lei? O no? Decisione, diciamo, tecnico-politica, tecnico-politica. Eravamo all'interno del processo preliminare, peraltro già approvato dal CIPE, attraversava un sito di interesse comunitario, un'ex cava di argilla, sì. La cui coltivazione era finita negli anni 80, quindi rinaturalizzata. Senta, ma tutti questi ostacoli che si incontrano, tra cui quest'ultimo che ha fatto ritardare di 280 giorni, sono cose normali che ci sono anche in altri paesi, oppure in Italia siamo specializzati? Beh, credo che in Italia abbiamo veramente una grande specializzazione in questo, cioè voglio dire, poi un ritardo di 280 giorni e alla fine 4 anni e 2 mesi per 32 chilometri di autostrada in un'area estremamente urbanizzata, insomma sono un buon tempo, però no, certo, per ritardare certo. Siamo specializzati. Grazie Vernizzi, buona serata. Grazie, 19:50, senta, i caselli, là, le uscite, quando ci saranno? Molti ascoltatori ci hanno chiamato per sapere questo, quando è che inizieranno i lavori per definire le uscite in questo passante che per ora si può percorrere solamente da un punto all'altro senza uscite? Mi sente Vernizzi? No, ci ha lasciato. Stefano da Mestre, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Niente, io vivo quotidianamente la tratta Mestre-Treviso, quindi passo per la tangenziale di Mestre, e questa mattina con mia enorme sorpresa ho visto che effettivamente le cose sono un po' cambiate, nel senso che c'erano effettivamente pochi mezzi. Beh, ci mancherebbe altro che no. Quindi con soddisfazione, se vogliamo. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso, se devo essere sincero, è il fatto che comunque la tratta che dalla A4 porta alla 27, quindi Mestre-Treviso sì. Sud, da 1,70 euro è passata a 2,20 euro. Si tratta sostanzialmente di 6 chilometri di percorrenza, quindi questo mi lascia un po' l'amaro in bocca, perché plaudo a quello che è stato fatto, perché comunque è un beneficio per quel che riguarda appunto il discorso della bretella, però in effetti mi lascia un po' perplesso. Beh, le comodità si pagano però, Stefano, evidentemente per stimolare le persone a prendere il passante, anche quelli che magari devono sono portate o per le quali viene più comodo prendere la tangenziale o continuare a prendere la tangenziale, bisogna che siano portate, insomma, a cambiare un po' abitudini, credo sia quello lo scopo, no? Ma indubbiamente la comodità costa, però ecco, diciamo che aumentare il prezzo del biglietto in questi termini mi sembra un po' esagerato, ecco, onestamente, visto che considerato che si parla sempre comunque di riduzione di prezzi entro certi standard, sì, sì. La tratta forse più cara d'Italia, perché per 6 chilometri pagare 2,20 euro credo che effettivamente sia un po' esagerato, onestamente. Però bisogna invogliare la gente, primo, a magari utilizzare l'autovettura solo quando è necessario, naturalmente, a utilizzarla per percorrere tragitti lunghi e in comune, e poi soprattutto non prendere quella tangenziale, naturalmente sempre nell'ambito delle possibilità umane. Uno deve andare a lavorare, si deve spostare, eccetera, eccetera. Monica da Milano, buonasera. Sì, buonasera, salve. Io volevo dare un contributo sul caso Englaro. Devo dire che umanamente sono dispiaciuta, ma non perché questa ragazza stia perdendo la vita, perché la stanno affamando, quanto per il fatto che non ha potuto scegliere l'eutanasia. Cioè, sinceramente, pensare a una persona che sta morendo perché... Scusi, non ha potuto scegliere? Di morire, di poter decidere che in questo caso l'eutanasia era una scelta possibile. Cioè, perché quando l'eutanasia è un'altra cosa, però si sta parlando. Diciamo che se ci fosse stata una legge quando ancora questa ragazza era viva, in cui come si sceglie di poter donare gli organi, si fa una scelta a priori di una evenienza di questo tipo. Sì, guardi, lei sta parlando della discussione che c'è sul famoso e ormai arcinoto testamento biologico. Il punto, esatto, però, il punto qui però è un altro, Monica. È vero che il Parlamento e le forze politiche sono state assenti per tanti anni, però tra i progetti presenti in Parlamento e colpevolmente rimasti fermi, bloccati, non ce n'è uno che prevede il caso in cui è Eluana Englaro, cioè in cui la volontà della persona non sia chiara. Questo lo dico a prescindere poi dalle idee che si possono avere sulla vicenda. Anche se fosse stata chiara, probabilmente non sarebbe stata sufficiente, perché in assenza di un quadro normativo è chiaro che si può andare solo per interpretazione. Beh, no, guardi, se la volontà fosse stata chiara, evidente, anche con un piccolo pezzo di carta, con uno scritto, io credo che non saremmo in questa situazione. Le leggi avrebbero deciso molto tempo prima il distacco dell'alimentazione e dell'idratazione. Il punto è che le sentenze fino a un certo punto davano contro Beppino Englaro per il fatto che non si riusciva a ricostruire la volontà di questa ragazza. A un certo punto, dopo diverse sentenze, la Cassazione ha stabilito che addirittura si può ricostruire la volontà di una persona attraverso i suoi stili di vita, anche attraverso i suoi stili di vita, e questo a molti è parso, pur in presenza di una sentenza, una forzatura, pare ancora una forzatura. Ma personalmente è più, come si dice, il rammarico di non avere un quadro normativo che non... No, ma su questo lei ha ragione, però il punto... Adesso sì, va bene, uno potrebbe dire il giudice ha fatto un'interpretazione estensiva rispetto a questa situazione... Però il problema è che non avevamo un quadro normativo e temo che, dato questo clima che si sta creando, non ne avremo mai neanche uno in futuro, che ci rimarrà questa normetta così ad personam, come lei ha detto, è chiuso. Beh, questa norma è espressamente per transitoria, può sembrare un paradosso, per alcuni addirittura una follia, ma è una norma transitoria. Bene, alle 20:01 andiamo a sentire i titoli del TG5. Eluana, la legge in discussione al Senato, cambiato il testo che ora stabilisce di riprendere l'alimentazione se sospesa, voto finale e segreto mercoledì alla Camera. Nuovi accertamenti sulla clinica di Udine, la struttura, noi siamo in regola, stazionarie le condizioni di Eluana che viene sedata dopo la sospensione della nutrizione. Vigilia di elezioni in Israele, Kadima, il partito di Tzipi Livni, in rimonta dietro al Likud di Netanyahu, lanciatissima l'estrema destra di Lieberman. 5 ragazzini violentano una 14enne e filmano tutto con il telefonino. Nessun pentimento, è stata solo una festa, dicono. Ma perché tanta brutalità è sempre più diffusa tra i giovanissimi? Nelle città è record di multe che vanno ad arricchire le casse comunali. A Roma, 2 anni fa, contravvenzioni per ben 340 milioni di euro. Clima bollente nella casa del Grande Fratello, non solo amori, ma litigi e risse. In arrivo sanzioni... Bene, andiamo a sentire anche i titoli del TG1. Quarto giorno senza nutrizione per Eluana. Sulla irregolarità della clinica il procuratore di Udine dice le sentenze vanno rispettate. Eluana domattina voto al Senato, PDL approvazione rapida, PD no ma senza diktat, 1000 emendamenti radicali, Rutelli dirà di sì. 14enne stuprata a una festa tra compagni di scuola, 4 minorenni arrestati nel Bresciano, altri non imputabili. L'Europa verso un vertice straordinario contro la crisi. In Francia varati aiuti per l'auto, la Nissan taglia 20.000 posti. Ho detto basta per i miei figli, al TG1 la cassiera della mafia ora vive nascosta per sfuggire alle vendette dei boss. Piccoli grandi amori al cinema ricordando gli anni 70 di Baglioni. Bene, un ascoltatore mi ha già scritto diverse mail questa sera, lo ringrazio, si chiama Giacomo da Ivrea. Nell'ultima mail, nell'ultima missiva che ci era capitato alla Zanzaretta, radio24.it, si esprime in questo modo: siamo alle solite, le sentenze definitive valgono per Andreotti and Company e non per gli altri. Lei ha una logica incredibile per sostenere il suo capo, non so a chi si riferisce, ma ho diversi capi nella vita. Arriva a dire che visto che la legge si fa in tre giorni non ci si può lamentare, una volta i lavori parlamentari sono rapidi, ma si ascolta, eccetera, eccetera. Siete sugli specchi, eccetera. Giacomo, bene, andiamo a Bolzano da Riccardo. Buonasera, prima di ascoltare i titoli della 7. Riccardo? Sta mangiando? Sento rumore di bicchieri, di stoviglie. Prego, Riccardo, dica. Sì, buonasera. Sta mangiando, niente. Riccardo? Sì, perché prego, non c'è sono problema. In attesa da 20 minuti, quindi. Dica pure. Niente, io volevo dire appunto che secondo me, cioè, perlomeno da quello che si vede anche dai comportamenti di Berlusconi e dal suo governo, si stanno facendo dei passi come li aveva fatti a suo tempo il signor Mussolini per avvicinarsi a prendere il governo del paese. Oh, ma che bello questo ragionamento, mi mancava questa sera, cioè, l'ho visto in diverse mail, però mi mancava questo accostamento tra il cavaliere Mussolini e il cavaliere Berlusconi. Allora, il caso Englaro sarebbe un passo di avvicinamento verso una sorta di presa del potere, non so attraverso cosa. Riccardo, mi spieghi, perché il ragionamento si fa curioso, interessante, intrigante. Perché con questa mossa si fa innanzitutto un bel passo verso la Chiesa, e questo è anche stato un bel passo del signor Mussolini. E poi pian pianino le cose si stanno mettendo al proprio posto, pian pianino, ma non è che lo farà domani, secondo me. Cioè, questo è il mio punto di vista, naturalmente, non è che... No, certo, per carità. Dunque, la situazione, e secondo lei... E domanda come mai questa solerzia che stanno usando per fare questa legge non è stata usata per proporre delle leggi e per poi farle promulgare al capo dello Stato, che ad esempio facciano in modo che chi è seduto al Parlamento e è stato condannato in via definitiva in terzo grado anche per reati di mafia non possa più sedervi. Invece queste cose qua non vengono neanche prese in considerazione. Oppure perché non si usa la stessa solerzia per fare in modo che non si possano spendere 250.000 euro per 1.000 aziende, oppure per dare 140.000 euro a un barbiere, o 110.000 euro a uno che fa i cappuccini, sempre nei loro meandri. Cioè, voglio dire, sono un po'... Cioè, perché non si fanno leggi in tre giorni per diminuire i privilegi della casta, dice lei. Esatto. Cioè, Su questo si può discutere, naturalmente, Riccardo, sulla solerzia che in alcuni casi il Parlamento utilizza, quando naturalmente ci sono delle cose che stanno a cuore al Parlamento. Evidentemente questa è una cosa che, per diverse ragioni, ognuno ha la sua, qui sta a cuore al Parlamento più di altre, su questo non c'è dubbio. Però vorrei capire da lei se anche Rutelli, per esempio, che ha detto di votare sì, e sto parlando di Francesco Rutelli, non di Giuseppe Ciarrapico, Francesco Rutelli ha detto di sì al disegno di legge del governo, fa parte di questo progetto berlusconiano di accaparrarsi il paese e arrivare dunque ad una situazione, come lei ci ha detto prima, mussoliniana. Anche Rutelli farebbe parte di questo complotto, magari perché amico della Chiesa. Ci hanno abituato ormai a tutto i nostri politici, quindi è meraviglioso che voi giornalisti continuate a dire che non bisogna essere qualunquisti, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, quando quello che si vede tutti i giorni sono cose che ti portano a essere qualunquista, a pensare che sono tutti uguali, che fanno finta di essere avversari e dopo invece sotto sono tutti d'accordo sulla stessa cosa. Ma a parte che non ha risposto alla mia domanda sulla complicità di Rutelli, o forse ha risposto, la ringrazio, sentiamo i titoli della 7. Senato riunito tra le polemiche, domattina il voto per ripristinare l'alimentazione forzata a Eluana Englaro. Mercoledì il passaggio alla Camera, no del PD che però ammette la libertà di coscienza. Bruxelles prepara un vertice straordinario sulla crisi, ma Sarkozy dà 6 miliardi di aiuti all'auto francese e ottiene la promessa di non chiudere stabilimenti per 5 anni. Tremonti chiede il via libera al piano italiano e assicura conti pubblici sotto controllo, ripresa già nel 2010. In Israele tensione sul voto di domani, stato di allerta in Cisgiordania, si temono possibili attentati. Oggi ancora lanci di razzi e tensione a Gaza, lo scontro elettorale è tra la destra nazionalista di Netanyahu e la centrista Livni. E domani a Londra l'amichevole Italia-Brasile, una sfida da finale mondiale. In campo tanti protagonisti del campionato italiano e dell'imminente derby Inter-Milan. Bene, bene, bene. Berlusconi come Mussolini, ma la gente che non la conosce la storia, nemmeno Cornacchione a Zeri che arriva a tanto, mi scrive Fabrizio. A proposito invece di cose mussoliniane o cose della seconda guerra mondiale, sentite cosa scrive Famiglia Cristiana nell'editoriale sugli ultimi provvedimenti del governo. Farà molto discutere. L'Italia precipita, unico paese occidentale, verso il baratro di leggi razziali. Leggi razziali, proprio così scrive Famiglia Cristiana, con medici invitati a fare la spia e denunciare i clandestini, cittadini che si organizzano in associazioni paramilitari, al pari dei bravi di Don Rodrigo, registri per i barboni, prigionieri virtuali solo perché poveri estremi, permesso di soggiorno a punti e costosissimo. Già c'è una reazione del ministro degli interni Maroni che parla di parole deliranti e di sono profondamente indignato e offeso dalle deliranti dichiarazioni di Famiglia Cristiana che accusa me, il governo e il Parlamento italiano di approvare vere e proprie leggi razziali. Va bene, questa è la situazione, queste sono le discussioni che ci sono in Italia, leggi razziali, al di là del fatto che siano giusti o sbagliati i provvedimenti. Alle 20.11 andiamo a sentire Diego da Venezia, buonasera. Sì, buonasera. Io dopo aver sentito le notizie mi verrebbe da dire che anche gli italiani sono geneticamente orientati verso lo stupro, sentendo il caso, è una battuta. Perché rifà il verso alle parole di Stiffoni? Perché, ma voglio anche spezzare una lancia a favore di Stiffoni, perché mi risulta che lui non abbia parlato con parole non sue, lui non è un genetista, lui non ha avuto studi orientati nel meccanismo della genetica, per cui probabilmente lui intendeva dire che quelle persone arrestate potevano avere tendenze dal punto di vista genetico. Ma guardi Diego, nelle parole di Stiffoni non c'è nulla da difendere, ma proprio nulla, guardi, non ci provi nemmeno, ma per carità ci può provare, ma non si riferiva a quelle persone, si riferiva in generale ai rumeni, pura follia, lo abbiamo detto, non c'è nulla da salvare in quell'intervento. Allora se è così, anche gli italiani sono tendenzialmente un popolo di stupratori. L'intervento mio comunque non era questo, ma era sul passante di Mestre, perché giustissimo, ci voleva, doveva essere fatto il passante di Mestre, ma non a spese dei veneti, perché il signore che è intervenuto prima si è lamentato di un aumento di 50 centesimi, sì. Ma se noi guardiamo bene 6 mesi indietro, l'aumento non è stato di 50 centesimi, ma di un euro che principalmente viene tolto dalle tasche dei pendolari che devono andare a lavorare, che si devono fare i soliti 10 chilometri, 20 chilometri al giorno per andare a lavorare. Sarebbe stato più intelligente fare in modo che chi è di passaggio, i camionisti, i camionisti che vengono dall'est o da altre parti, paghino la sovrattassa, ma non il lavoratore, perché in un anno sono 500 euro in più di aumento. Lei faccia un po' i conti, un euro andata, un euro ritorno, in un anno per 25 giorni lavorativi al mese, in un anno siamo intorno ai 500 euro in più. Per cui io non sto criticando il passante che andava fatto, sto criticando come viene gestita la cosa. No, ho capito Diego, però quando lei mi dice lo pagano i veneti, qui bisogna mettersi d'accordo, perché insomma si vuole alleggerire i dintorni di Venezia dal traffico, si vuole fare un passante, giustamente se ne parlava da 30 anni, dunque da decenni, però non è a costi zero tutto questo, è evidente, non si può dire non vogliamo il passante ma lo paghino gli altri. Un ascoltatore, Giancarlo, mi scrive: volevo intervenire sul passante di Mestre, i dati ascoltati al TG3 regionale dicono che il passante è solo 6 km in più rispetto alla tangenziale, costa un po' di più il pedaggio, che ha finanziato in parte il budget del passante. Gli automobilisti che telefonano dimenticano di colpo che prima spendevano molto di più a fare le code in tangenziale sia per il carburante che per il tempo che perdevano i trasportatori. In più i proventi di ciò anche in futuro rimarranno in regione e finanzieranno altre infrastrutture. E nessuno è obbligato comunque poi ad andare in autostrada, su questo si può discutere naturalmente. Ha capito Diego? Cioè, non è che uno deve vedere solamente lo svantaggio del pagare di più il passante, la tangenziale, ma c'è un vantaggio, diciamo, che ha a che fare con la diminuzione delle code, con il carburante, eccetera, o no? Io mi perdoni, non metto in dubbio che doveva essere fatto. Metto in dubbio il fatto che è gestito male, perché non puoi andare ad aumentare un euro in più la tratta a uno della zona, a un operatore, a un operaio. Non si può. Chi paga di più, un camionista o un operaio? Adesso, nell'arco di un anno, chi paga di più? Cioè, noi siamo. Sì, non è che non pagano quelli del passante, eh? Non è che è gratis il passante. Ma va bene, ma io... Permetta, io posso anche pagare un euro, anche due, anche ma tre. Ma lei paga 50 centesimi in più o un euro, quello che è, secondo i suoi calcoli, per i vantaggi che ottiene ad avere una tangenziale più libera rispetto a prima. Questo è si paga in questo modo, si paga per avere un vantaggio. Mi sembra che lo scambio sia questo, poi se è uno scambio equo non lo so. Bene, una gentile ascoltatrice che si chiama Antonella ha colpito nel segno, ha visto giusto. Non capisco se davvero lei non riconosce l'involuzione dittatoriale di questo paese o se fa finta per mantenersi il posto di lavoro. Antonella, abbia pazienza, guardi. Ho talmente tanti pensieri che questo proprio non mi sfugge, quello di non parlare della cosiddetta o della presunta involuzione dittatoriale di questo paese per conservare il posto di lavoro. Guardi, proprio no. Altri messaggi di questo tipo, ma sono tutti i nostri amici che ci ascoltano e naturalmente hanno il massimo del rispetto, abbiamo il massimo del rispetto nei loro confronti. Addirittura Riccardo Villari, iscritto al gruppo Misto, sta intervenendo al Senato sulla vicenda Englaro. Curioso sentire la sua posizione, sentiamo. Sono rimasti in aula ad ascoltare, a testimonianza, ahimè siamo in pochi, che la profondità di queste tematiche necessita innanzitutto di una capacità di confronto e di ascolto che purtroppo qualche volta manca. Io voglio ricordare a me stesso e a tutti noi che nel mese di luglio quest'Aula approvò all'unanimità un ordine del giorno. Vabbè, Riccardo Villari, gruppo Misto, ormai si sta esprimendo, fa notare una cosa, che c'è una certa assenza, insomma non ci sono molte persone, non ci sono molte persone al Senato e secondo me non va bene, perché dopo tanto parlare, dopo tante discussioni, anche se per carità si andrà avanti tutta la notte, il voto ci sarà domani, dunque si arriverà al nodo della questione domani, secondo me ci voleva più partecipazione. L'onorevole Paola Binetti del Partito Democratico è in collegamento con noi prima di recarsi da Gad Lerner. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, onorevole Binetti, le leggo la dichiarazione che ha fatto un leader del suo partito, del Partito Democratico, che è Francesco Rutelli, pochi minuti fa, anticipando un intervento che sarà pubblicato su Europa domani mattina. Mi pongo l'interrogativo insopprimibile: chi decide se possa valer la pena di essere vissuta la parte finale dell'esistenza di quell'anziana donna lasciata sola in quella corsia d'ospedale? Io sono per innalzare il livello del rispetto delle cure e per tenerlo più alto possibile, per non considerare alimentazione e idratazione allo stesso modo delle cure ormai inutili se non crudeli su un corpo che si spegne. Così Rutelli anticipa il suo sì, la bilancia pende verso il sì, la bilancia pende verso il sì anche per lei, Binetti? No, la mia bilancia è sì, non è che pende, è un sì chiaro e determinato su questo punto. Dunque un sì al disegno di legge del governo così come articolato in questi due commi. Sì. Ma senta Cruciani, lei è una persona sempre anche molto onesta nelle posizioni intellettuali. Sì. Io non è un sì al disegno di legge del governo. No, io sì, è no, sì, certo. È una posizione che già da 2 anni e mezzo esprimiamo tutti i giorni, mattina, pomeriggio, in tutte le occasioni in cui abbiamo modo di esprimerlo. Io rigetto l'idea da parte nostra di subire la strumentalizzazione berlusconiana. Per noi è l'opportunità concreta di affermare un valore come abbiamo sempre fatto. Rivendico perlomeno questa onestà intellettuale. No, ma su questo certamente non gliela toglievo assolutamente questa onestà intellettuale, anzi gliela riconosco. Lei però ha parlato di strumentalizzazione berlusconiana. Dove la vede? In che cosa l'ha vista? Ma la vedo nel fatto che lui avendo avuto l'opportunità, perché è da tempo che il Partito della Libertà, il Popolo della Libertà, attraverso le posizioni di Eugenia Roccella, no, del sottosegretario, sì, anche attraverso tutte le direttive del ministro Sacconi, sta lavorando e si sta esprimendo su questo tema. Noi abbiamo avuto la sensazione che sia Eugenia Roccella che sia il ministro Sacconi fossero stati lasciati soli e che in questo momento in corsa sia stata raccolta, diciamo, un po' la tematica da loro posta con molta argomentazione, con molta enfasi e devo dire anche molte volte con un contraddittorio interno al partito e con un contraddittorio sul territorio, diciamo, del confronto culturale molto forte. Quindi vedo questa cosa di Berlusconi come chi all'ultimo momento, no? Noi diciamo così, in modo se vuole femminile, chi mette la ciliegina sul dolce, no? Sì. Ma questo dolce è stato abbondantemente preparato, lavorato, eccetera, da altri colleghi. In questo senso io vedo la strumentalizzazione. Sì. Peraltro devo dire che la strumentalizzazione poi nasce anche dal senso assoluto dell'urgenza. Stiamo veramente in una lotta contro il tempo. Davvero, se per caso Eluana morisse, sarebbe la prima e l'ultima persona, mi auguro con tutto il cuore, ma la legge poi punta in questa direzione, che sia morta per questo tipo di motivo. Per questo voglio che Eluana viva, sì, non deve pagare lei il prezzo di questa legge. Senta, onorevole Binetti, c'è una posizione molto forte da parte dei radicali, espressa dei radicali all'interno del Partito Democratico, espressa in aula proprio pochi minuti fa al Senato dall'onorevole Bonino. Gliela vorrei far ascoltare perché la posizione è questa: si sostiene sostanzialmente che questo disegno di legge comporta il fatto che anche chi vuole interrompere di propria volontà l'alimentazione e l'idratazione, poi dopo questo disegno di legge non potrebbe farlo. Sentiamo un attimo, poi voglio un suo commento. Signori del governo, quando un governo capace di inventare falsità a reti unificate, trasformarle in decreti e poi portarle per essere timbrate in un Parlamento addomesticato e ricattato dal pietismo televisivo, questo dovrebbe terrorizzarci. Colleghi, dovrebbe terrorizzarci. Lasciamo parlare la senatrice Bonino. Uno lasciamo Stato parlare. È un governo, ma uno Stato che entra nel letto dei pazienti, ovviamente a fin di bene, che è sempre stata la giustificazione di tutti gli orrori della storia, il fondamento di ogni totalitarismo, e che tende a non uscirne più se qualcuno non lo ferma, tutto questo dovrebbe terrorizzarci e terrorizzarvi. Solo in Italia, pare, chi pure si proclama liberale può non vederlo. E questo, oltre il calvario di una famiglia, è ciò che in queste ore disperanti è in gioco anche per coloro che dicono di non avere opinioni sulla situazione in Glaro e si credono fuori dalla tragedia. Non lo siamo, non lo siete. Oggi il commentare di una trasformazione di un ex decreto in un disegno di legge, in un Parlamento che ritiene che 50 minuti siano sufficienti a togliere la libertà ai cittadini, tutti quanti, è la libertà ai cittadini che è in gioco, questo dovrebbe terrorizzare innanzitutto voi, innanzitutto chi crede nelle libertà. Qui non è un problema di destra e di sinistra, qui è tra chi è liberale e chi non lo è, tra chi è laico e chi non lo è. Oggi voi state dando un ulteriore colpo durissimo al già pesantemente distrutto Stato di diritto nel nostro Paese. Allora, queste le parole della Bonino. Onorevole Binetti, qui secondo una persona che è all'interno del suo stesso partito, ma non voglio fare polemica su questo naturalmente, si mette in gioco la libertà dei cittadini, cioè dire dopo l'introduzione di questo decreto legge, anche chi di questo disegno di legge, anche chi vuole interrompere l'idratazione e la alimentazione non potrà farlo, è così oppure è una mistificazione? No, la Bonino in questo caso forza assolutamente le cose. Chi è capace di, come dire, chi è in pieno possesso delle sue capacità, sì, può rifiutare in qualunque momento la nutrizione e l'idratazione. Tant'è vero, a cominciare da Marco Pannella, quando fa i scioperi della fame, nessuno lo può obbligare a mangiare o a bere. Quindi, prima cosa, falso quello che dice la Bonino. Secondo, anche lei crede di fare il bene. Onorevole Binetti. cioè, così mi sembra durissimo dire qualunque cosa. Posso dire però che questa è la storia di una morte annunciata, voluta e perseguita in tutti i modi. Mi dispiace molto, mi addolora molto che non siamo arrivati in tempo, mi addolora molto, ma questa è una storia di una morte annunciata e costruita punto per punto, in questi ultimi giorni con una accelerazione terribile. Siccome lei sono molto addolorata. No, immagino. Siccome lei parla di morte annunciata, una morte annunciata voluta fortemente da qualcuno che secondo lei ha dei responsabili? Guardi, non so, non glielo voglio dire perché non lo so in questo momento. Certamente si stava lavorando perché Eluana morisse. Le si era tolta nutrizione e alimentazione, le si era data, gli si stavano dando dei calmanti con un preciso obiettivo, con un preciso scopo. Solo che solo stamattina sul Corriere della Sera De Fante aveva lasciato un'intervista in cui garantiva sulla qualità della salute, della fibra forte di questa ragazza, che non prendeva nulla, diceva nemmeno gli antibiotici. Corriere della Sera di oggi, De Fante, il suo neurologo. Sì. Diceva che avrebbe potuto vivere ancora 14 giorni, forse anche di più, data la sua fibra. Questo diceva il suo medico. Onorevole Binetti, ascolti quello che sta avvenendo al Senato in questo momento da parte del vicepresidente Chiti. Silenzio, per favore. Per favore. Non mi pare che sia il modo migliore. Non mi pare. Cioè il presidente Schifani che sta rioccupando la poltrona della presidenza. Chiti ha appena dato il vicepresidente del Senato. Chiti del Partito Democratico ha dato l'annuncio diffuso dall'agenzia della morte di Eluana Englaro. Si sta scatenando naturalmente la discussione, c'è chi dice vergogna all'interno del Senato dopo questo annuncio, e giustamente il presidente Schifani sta dicendo che non è il caso di urlare e gridare in presenza di una notizia così. Schifani. Al momento che stiamo vivendo, al momento di dolore. Io prego i colleghi presenti l'Aula, al di là di qualunque dichiarazione della Presidenza, di raccogliersi in un minuto di raccoglimento. Grazie. E avete sentito le ultime parole di Schifani e la seduta credo è stata tolta, anzi no, un minuto di silenzio, sentite. Anzi non sentite, osserviamo anche noi un minuto di silenzio. Bene, finito il minuto di silenzio nell'Aula del Senato dopo l'annuncio della morte di Eluana Englaro diffusa dalle agenzie di stampa esattamente pochi minuti fa. Volevo Ministro Sacconi, credo, in diretta al Senato. Sentiamo. Al grande dolore dei familiari di Eluana Englaro, di tutte le persone che le sono state vicine, in particolare in questi lunghi 17 anni. Noi abbiamo sempre comprensione per le scelte del padre di Eluana Englaro, anche se non ne abbiamo condiviso lo scopo. In questo momento ricordiamo anche quelle suore misericordine che si sono a lungo con straordinario amore preso cura di lei, persona viva fino a poco fa ed ora deceduta. Nell'esprimere, come ho detto, la partecipazione di tutti i componenti del governo al grande dolore di coloro che l'hanno conosciuta, le sono stati vicini, ma di tutti gli italiani che hanno avvertito il dramma di questa persona e di questa famiglia. Io esprimo anche l'auspicio che l'Aula del Senato voglia procedere secondo il calendario stabilito affinché questo sacrificio non sia stato inutile del tutto, affinché esso possa indicarci la strada di un provvedimento tempestivo, ma anche quella di quella disciplina più organica e compiuta alla quale questo stesso provvedimento vuole fare riferimento. Nel nome non soltanto di profondi valori che io mi auguro siano quanto più condivisi nell'ambito di quest'Aula, ma anche di un laicissimo principio del dubbio che riguarda i tanti profili, soprattutto sostanziali prima che formali, in nome del quale dubbio io mi auguro l'Aula vorrà considerare quel principio di precauzione in favore della vita che ha ispirato l'iniziativa del Governo per un decreto legge prima e per un disegno di legge poi. Bene, questo è l'intervento del ministro Sacconi, ripeto, dopo l'annuncio della morte, annuncio ufficiale pochi minuti fa della morte di Eluana Englaro nella clinica La Quiete di Udine. Il ministro Sacconi ha detto proprio in nome dei principi cui si ispira il disegno di legge, eccetera, eccetera, andiamo avanti con la sua approvazione. Dunque, Eluana Englaro è morta, la notizia è stata diffusa intorno alle 20:20, 20:25 dai responsabili della clinica La Quiete dove si trovava nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, Eluana Englaro, confermata poi dalle istituzioni locali. C'è un primo commento del Vaticano da parte del cardinal Javier Lozano Barragán, che è sostanzialmente il ministro della salute della Santa Sede, che il Signore la colga e perdoni chi l'ha portata a questo punto. È il primo commento del Vaticano. Avete sentito prima dell'interruzione il ministro Sacconi, il ministro della salute e del welfare Sacconi, dire avanti. Il Senato deve andare avanti nell'approvazione del disegno di legge. Il sacrificio di Eluana non sia vano. Siamo stati vicini al padre anche se non condividevamo la sua scelta. Naturalmente stanno arrivando moltissimi commenti, ma voglio soprattutto sentire voi. Andiamo a caldo. Abbiamo avuto quello dell'onorevole Binetti. Avete sentito che ha preso proprio nella diretta con noi della notizia della morte di Eluana Englaro. Francesco da Pavia, buonasera. Buonasera. Non ho parole per quello che è successo. Volevo intervenire sul caso Englaro, non sulla vicenda che si è appena conclusa, ma sul comportamento dei mezzi di stampa, del Vaticano, dei politici. Ritengo estremamente vergognoso ciò che è successo. Scusi un attimo, Anna Finocchiaro al Senato, sentite. Con la quale il centrodestra e il presidente Berlusconi in prima persona ha affrontato presidente questa Finocchiaro. Questione. Ricade nel momento più triste. Credevo che le parole del ministro Sacconi avessero aperto quest'Aula all'umanità del dolore, oltre che a quello della responsabilità. Mi sono dovuta ricredere. Per quanto ci riguarda, presidente Schifani, è solare dinanzi alla sua testimonianza il fatto che non un atto di ostruzione, perché questa discussione cominciasse in quest'Aula, è stata compiuta dal gruppo del Partito Democratico. Il tentativo, che è nelle parole del senatore Quagliariello, quindi si rivolge ad un profilo che è così alto e così grave, nella nostra Repubblica da non poter essere tollerato. Noi non possiamo. Noi che per primi abbiamo proposto al Senato una legge che regolasse il fine vita, che abbiamo fatto votare un ordine del giorno che impegnava voi prima di noi ad approvarla. Insomma, deve essere successo qualcosa prima dell'intervento di Gaetano Quagliariello del PDL, vice capogruppo al Senato, che evidentemente deve aver attaccato il Presidente della Repubblica dalle parole che riesco a intuire del ragionamento della Finocchiaro. Sentite ancora? E che oltre questo noi non ci staremo. Va bene, andiamo a sentire allora Francesco da Pavia. Francesco, prego. La conferma, mi dispiace. No, stavo dicendo che trovo estremamente vergognoso e abominevole, non ho parole, per il comportamento dei politici, della classe politica, dei religiosi e della stampa che non tacciono davanti a un dramma di questo genere, che mi ricorda, mi riporta a 40-30 anni fa nell'81, quando il piccolo Alfredino Rampi morì e tutti danzavano intorno alla sua tomba di bambino, tutti, istituzioni, stampa. Sì, però mi perdoni Francesco, io credo che siano due casi molto molto diversi, molto molto diversi, non c'entra nulla. All'epoca c'era un grande senso di unità nazionale intorno alla vicenda di Vermicino. Adesso c'è una legittima, naturalmente, spaccatura del mondo politico e intellettuale intorno alla vicenda di Eluana Englaro. Le parole che hanno fatto discutere di Quagliariello, che hanno fatto molto arrabbiare Anna Finocchiaro, sono le seguenti: Eluana non è morta, è stata ammazzata, è stata una decisione politica che ha precise responsabilità. Evidentemente le parole di Quagliariello si riferiscono al Presidente della Repubblica, con tutta chiarezza, immagino, se capisco qualcosa. Può darsi pure che adesso nella concitazione non riesco bene a, e anche se volete nell'angoscia di questo momento, non riesco a cogliere bene le parole di Quagliariello. Quando dice Eluana non è morta, è stata ammazzata, è evidente che si riferisce, e poi quando aggiunge è stata una decisione politica che ha precise responsabilità, penso si riferisca al Colle, al Quirinale. Roberto, provincia di Lodi, buonasera. Non c'è Massimiliano da Trento. Intanto la seduta al Senato è stata sospesa, ci sarà una riunione dei capigruppo e poi evidentemente riprenderà, forse. Massimiliano, prego. Buonasera dottor Cruciani, io volevo fare un intervento di carattere culturale più che politico. Beh, a questo punto però l'intervento di carattere culturale credo che lasci il passo un po' a quello che è accaduto. Volevo dare degli spunti di riflessione che credo possano essere interessanti. Prego. Io sono soccorritore al servizio di emergenza sanitaria territoriale, quello che viene comunemente chiamato 118. E ho avuto modo, insomma, di vivere numerose situazioni di dramma e tragedie simili a quella che stiamo avendo in questi momenti. E le cito due esempi di vita quotidiana perché possa farsi un'idea. Lei deve sapere che quotidianamente. Allora, sono le 20.48, 800 24 0024. Da mezz'ora Eluana Englaro è morta. È un annuncio che è stato diffuso dall'agenzia di stampa ANSA intorno alle 20.22. La seduta al Senato è stata sospesa dopo l'annuncio, dopo l'inizio di discussione. C'è stato uno scontro molto forte tra il vice capogruppo del PDL al Senato Quagliariello e il capogruppo del PD Anna Finocchiaro. Quagliariello ha detto che è stata uccisa politicamente Eluana Englaro, che ci sono delle precise responsabilità politiche. Subito dopo l'intervento di Anna Finocchiaro e il termine poi della seduta al Senato, ma tutto questo certamente passa in secondo piano rispetto alla morte di una persona. Berlusconi ha qualche secondo fa diffuso una dichiarazione: il Presidente del Consiglio ha appreso con profondo dolore la notizia della morte di Eluana Englaro e grande il rammarico che sia stata resa impossibile. Dunque, secondo Berlusconi è stata resa impossibile, bisogna capire da chi, secondo Berlusconi, un'azione per salvare Eluana Englaro. Andiamo in provincia di Roma da Paola, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io avevo tentato di inserirmi nella sua trasmissione prima di questa notizia. Sì, prima di questa notizia. Che sentimento prova quando ha preso in diretta praticamente con noi di questa notizia? Siamo tutti sconvolti, lei in fondo l'ha messo pochi minuti fa. Siamo sconvolti da una parte e dall'altra, direi. Sono molto contenta che sia stata sospesa al Senato la riunione, in modo che time out, un momento di riflessione, un momento di pausa. I minuti di silenzio che contano in questo caso. Io volevo comunque dire quello che volevo dire prima di questa notizia. Avevo visto alla Rai 1 due senatori, uno per il PD e uno per il PDL, che tutti e due hanno ammesso che la questione in gioco era trasversale, cioè le opinioni erano trasversali nei due partiti. Poi c'erano naturalmente le posizioni dei due partiti, però all'interno c'era trasversale. Io vorrei che gli italiani se ne ricordassero, guardate che è una situazione così trasversale. E l'altra questione è il ricordo terribile che è venuto in questi giorni della morte di Terry Schiavo negli Stati Uniti, che guardi, sembra abbia fatto la fotocopia. Si ricorda una corte contro l'altra? Si ricorda, busca l'ultimo momento che tentava disperatamente. Beh, sì, questo però è il segnale che evidentemente queste questioni è difficile regolarle poi legislativamente, quando si presentano soprattutto nelle fasi conclusive poi investono le coscienze e diventano questioni di grandi dibattiti. Non c'è solo sciacallaggio intorno, come mi segnalano molti ascoltatori, intorno a questa vicenda. Direi di no, non c'è solamente sciacallaggio, speculazione politica, che c'è sempre, comunque ognuno cerca di portare acqua al suo mulino e di ottenere anche dei vantaggi politici nei rapporti col Vaticano, eccetera. Questo c'è ed è purtroppo incancellabile, fa parte di quelle cose che riguardano, di quelle pagine nere che riguardano la politica, che rimarranno sempre. Però ci sono anche grandi questioni diciamo intellettuali, filosofiche e umane. In diretta dal Senato al TG2 credo ci sia il capogruppo del PDL Gasparri, insieme all'intervistatrice, magari fra poco lo ascolteremo. Paola appena parlato, Matteo da Milano. Matteo, buonasera. Sì, pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, dica. Sì, ecco, adesso è un po' difficile a caldo dopo questa notizia, comunque esprimo sicuramente tutto il mio personale dolore per questa vicenda umana, ma al di là di questo mi sembra che il caso Eluana di sicuro sia servito al dibattito nazionale, se non altro per identificare alcuni punti che mi sembrano molto chiari. Per esempio? Cioè, ma ha evidenziato in maniera chiara che in Italia, come diceva l'ascoltatrice prima, ci sono due grandi schieramenti, cioè che sono trasversali ai partiti. C'è uno schieramento, a mio parere, che riconosce la priorità di alcuni valori fondamentali connaturati. Scusi un attimo, non perché sia meno importante o più importante di quello che sta dicendo lei, le prime reazioni politiche però sono da ascoltare. Maurizio Gasparri, PDL, al TG2 sentiamo. Sentimenti di commozione, di pietà, è il momento della tragedia, ma non possiamo negare che si è consumata una eutanasia, si è fatta una scelta deliberata con tempi che poi si sono rivelati più rapidi di quelli che tutti i vari operatori della sanità avevano detto, quindi ci sono interrogativi inquietanti e su questa vicenda pesano tante scelte, pesano anche le firme messe e non messe, l'ho dichiarato poco fa, lo ripeto, ognuno risponde in questo momento alla sua coscienza di persona, di legislatore, di persona delle istituzioni. È un momento pesante per la vita del Paese ed è giusto che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità e che chi ha compiuto delle scelte mediti sulle conseguenze che quelle scelte hanno prodotto. Ecco, il Presidente del Consiglio, abbiamo sentito nel anche quest'ultima frase di Gasparri porta forse al Quirinale, insomma non nascondiamoci, nelle parole prima del vice di Gasparri al Senato Quagliariello, anche nelle parole di Gasparri c'è un'indicazione di una responsabilità politica e quello che è avvenuto e forse una velata accusa al Capo dello Stato, vedremo. Andremo avanti fino alle 22 con i vostri interventi, soprattutto con i vostri interventi all'800 24 0024, dopo aver appreso, ripeto, intorno alle 20 e 22 che Eluana Englaro è morta. Andiamo a sentire allora l'ascoltatore da Milano, Marco, che ci stava parlando. Prego Marco. Buonasera Cruciani, buonasera ai suoi ascoltatori. Io purtroppo sono subentrato perché mi sono assentato nel momento in cui avevo prenotato, diciamo, ho chiamato, poi sono stato richiamato e non mi sono perso parte del programma. Apprendo purtroppo dalla sua voce che Eluana diciamo ci ha lasciato. Sì. Purtroppo io credo, so che la mia sarà un'opinione abbastanza forte, magari anche poco condivisibile, però credo che in Italia per la prima volta sia stata applicata una pena di morte con tanto di condanna. E dico questo con tanto di di tortura. E dico questo perché alla fine la paziente è morta e quindi la tortura ulteriore data dal fatto della sospensione dell'alimentazione, perché vorrei ricordare a chi confondeva la sospensione dell'alimentazione con la sospensione delle cure, che l'alimentazione non è una cura, è stata sospesa deliberatamente il cibo e la nutrizione che manteneva in vita la paziente. Ho capito Marco, tra l'altro si sta discutendo qui di un'altra cosa che ha accennato prima anche il senatore Gasparri. Effettivamente rispetto ai tempi indicati nei giorni scorsi un po' da tutti, da sanitari, da esperti eccetera eccetera, c'è stata un po' di sorpresa nell'apprendere in maniera così angosciosa di questa notizia della morte di Eluana Englaro. perché effettivamente non lo possiamo sapere, naturalmente le reazioni di un corpo dopo 17 anni sono naturalmente imprevedibili, però effettivamente dopo 4 giorni dall'inizio di questa procedura di distacco del sondino nasogastrico, i tempi sono apparsi adesso evidentemente troppo veloci, e c'è il sospetto che prima ha adombrato Gasparri che in realtà sia successo qualcos'altro. Sono naturalmente tutti sospetti da confermare. Andiamo a sentire Edoardo dalla provincia di Roma, poi Umberto da Como e altri. Ripeto che saremo con voi fino alle 22 con i vostri interventi all'800 24 00 24. Edoardo, prego. Buonasera, sono Edoardo dalla provincia di Roma, dottor Crociani. Volevo dire solo un paio di cose. Prima di tutto il mio rammarico e il mio dolore, diciamo, per questa storia. Ma una cosa volevo dirla, soprattutto. Anni fa, quando non c'erano le tecnologie per tenere in vita persone in stato di questo tipo comatoso, si andavano cercando. Ora che abbiamo le tecnologie che per 17 anni hanno permesso a questa persona di vivere, le andiamo a togliere. Rinunciamo a queste tecnologie. Lei con questo ragionamento ha detto tutto. Edoardo, a me ha colpito molto. Io sono sempre stato molto incerto su questa vicenda e molto dubbioso, e continuo a esserlo. Il modo in cui le agenzie di stampa hanno battuto la notizia: Luana Englaro è morta. Bene, gentili ascoltatori, riprendiamo con la Zanzara in via eccezionale, purtroppo fino alle 22, dopo la notizia che si è presa con un'agenzia dell'ANSA intorno alle 20:20 della morte di Luana Englaro. Luana Englaro è morta intorno alle 20, lo si è appreso da fonti delle forze dell'ordine, ed è morta all'improvviso, e lo si è saputo a Udine in questo momento da fonti sanitarie. Cosa vuol dire è morta all'improvviso? Naturalmente non lo sappiamo, però già ci sono delle altre notizie da darvi importanti. Per esempio, effettuare subito accertamenti, analisi tossicologiche e l'autopsia giudiziaria per accertare le vere cause della morte improvvisa di Luana Englaro, lo chiede il neurologo Gianluigi Gigli dell'Università di Udine, che sottolinea necessario il sequestro delle cartelle cliniche. Tra l'altro, la procura di Udine con il procuratore Antonio Biancardi ha acquisito in serata appunto le cartelle cliniche e il certificato di morte di Luana Englaro. Poi si deciderà se è il caso o meno di procedere all'autopsia. Vi ricordo il numero per intervenire alle 21.08 800 24 00 24. Accanto a me il direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, cui affido un breve commento naturalmente sulla conclusione drammatica di questa vicenda. Sì, grazie Cruciani, grazie anche per voler proseguire questa trasmissione di fronte a questa notizia, una notizia che indubbiamente era purtroppo attesa, ma che comunque resta sconvolgente, e qui bisogna forse iniziare col dire che le parole sono inadeguate di fronte a fatti di questo tipo, ma il nostro mestiere è un mestiere fatto di parole, e abbiamo bisogno di parole, e abbiamo forse necessità di parole soprattutto anche in un momento come questo, in un momento in cui deve forse prendere il sopravvento la riflessione, per qualcuno la preghiera, ma per tutti sicuramente la riflessione su quello che è e resta un mistero: il mistero della vita, il mistero della morte, qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Ci confrontiamo tutti con il mistero della vita, ci confronteremo tutti con il mistero della morte, che comunque è di fronte con la morte degli altri, con la morte di chi ci è caro, con la morte di ogni persona, con una morte che ha sempre un significato, perché interrompe una relazione, interrompe qualcosa, interrompe forse un flusso che noi non possediamo, che noi non possiamo controllare e che vorremmo forse controllare. Ecco, in questo senso riflettere sul mistero. La parola mistero è stata usata molto poco in questi giorni, in queste settimane, in cui c'è stato un confronto molto forte, un confronto politico, un confronto ideologico, un confronto anche pesante, anche sfiorando, forse arrivando fino alla crisi istituzionale all'interno del paese. E allora forse questo fatto, questa notizia, questa morte va presa anche come una sconfitta di tutti, una sconfitta per la politica che non è arrivata in tempo, ma perché è partita troppo tardi, perché era un problema da affrontare da settimane, da mesi, da anni, al di là del problema del fatto di Luana Englaro. Una sconfitta per la politica, ma anche una sconfitta per l'umanità, una sconfitta per la scienza, una sconfitta per la tecnica, una sconfitta per quanti pensano di poter andare avanti sulla strada appunto della conoscenza, senza pensare che appunto sulla conoscenza c'è bisogno anche di umiltà, c'è bisogno anche di accettare la sofferenza, di accettare anche quelle che sono le decisioni degli altri, di rispettare le decisioni di tutti. Ecco, sono parole così, forse raccolte frettolosamente, però io vorrei solo sollecitare appunto una riflessione per chi crede, una preghiera. E noi dunque abbiamo deciso, almeno fino alle 22 e poi anche nei prossimi giorni, di continuare a parlare di questa vicenda, soprattutto con voi, con i nostri principali interlocutori che sono gli ascoltatori all'800 24 00 24. Parleremo anche di politica, naturalmente, parleremo di tutte le implicazioni politiche che discendono da questa vicenda, però le riflessioni sono tante altre, non sono solamente quelle della discussione politica e dello scontro politico che in questi casi si è fatto comunque forte e continuerà a essere forte nonostante, e anzi forse soprattutto dopo una notizia così drammatica. Giovanni da Pisa, buonasera Giovanni. Buonasera, io premesso che mi stringo a chi, anche alla famiglia, pur disapprovando completamente quello che è successo. Disapprovando da che punto di vista? Disapprovando il punto di vista della famiglia? Sì, mi stringo anche a chi l'ha accudita, perché anche loro stanno piangendo, nessuno l'ha intervistata in questi giorni, però quelle suore che per 17 anni non hanno accudita in questo momento stanno piangendo al pari di altri. Beh, diciamo nessuno le ha intervistate perché forse non si sono fatte intervistare. Esatto, non si sono fatte intervistare, ma infatti è un ulteriore punto di merito al mio riguardo. Cioè quelle persone che veramente hanno rispettato il silenzio, addirittura non hanno chiesto, hanno rispettato loro per prime. Al di là di questo, il mio intervento è volutamente acido questa sera. In che senso? Guardi, forse ha avuto davvero ragione Cappato, hanno avuto ragione i radicali, tutti quei pensatori, quelli per cui tramite artificiosissime contorsioni dialettiche Luana non moriva e non sarebbe morta di sete, ma di, come dicevano loro, sospensione delle cure, o forse di che qualsiasi altra causa di non so, di inedia. Cosa vuol dire? Guardi, forse... Guardi, io le parlo anche da medico, quindi il medico del 118, ne vedo tante. Cioè lei ci vuol dire che non crede al fatto che sia potuta morire dopo pochi giorni dalla sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione? Senta chi vuole, perché che una persona in stato di salute, in assenza di patologie come Luana, che non era cardiopatica, non aveva i reni in pezzi, dopo due giorni di assetamento muoia... Quattro, guardi... sì, ma di assetamento totale, perché la riduzione delle cure... Sì, certo, progressiva, certo. Ecco, allora, questa cosa è improbabile, almeno quanto che quella stessa persona si risvegli dopo 17 anni di stato vegetativo. Molto, molto, molto improbabile. Quindi no, questa... Giovanni, io la capisco, però guardi, naturalmente sono tutte considerazioni che ognuno di noi può fare. Magari per qualche minuto, secondo me, dobbiamo un po' lasciare dietro la dietrologia, per carità, poi... poi ne parleremo nei prossimi giorni, vedrà che ci saranno articoli su articoli, i giornali parleranno giustamente di quelle che sono le possibilità, come mai è morta in quattro giorni eccetera, però adesso davvero non riesco a parlare di questo. È iniziato l'infedele con Gad Lerner, che ha un titolo sulla 7, e Luana se n'è andata via, sentiamo. La quiete di Udine, il primo pensiero naturalmente anche da parte nostra va a Beppino e a Saturna Englaro. Beppino è stato più volte ospite dell'Infedele, da ultimo a ottobre, il 27 ottobre abbiamo dedicato un'intera puntata a lui e al suo libro Eluana, la libertà e la vita. Lì si era confrontato con Eugenia Roccella, con... Bene, avremo modo di sentire naturalmente gli interventi quando sarà il caso all'interno dell'Infedele. 21:14, ancora un ascoltatore, Umberto da Como, buonasera. Buonasera, sono Umberto da Como, buonasera dottor Cruciani. Ma io voglio ripetere quello che ho detto ai suoi collaboratori, non restando certamente influenzato dalle precedenti affermazioni di qualche esponente politico. L'unica cosa che dico è, in Regione Lombardia Eluana non avrebbe potuto morire. Primo, perché nello statuto della Regione sopporta la vita in ogni sua forma. La seconda cosa, mi assumo tutte le responsabilità, ritengo che questo sia un omicidio di Stato, e l'affermazione che la Procura di Udine che voglia intervenire sul ritiro delle cartelle, mi auguro che ci sia un'autopsia, perché di posti dove fanno terminare la vita qualche giorno prima, in questi casi ce n'è e ne salteranno fuori, io me lo auguro. Io ho avuto un fratello handicappato, non è durato 17 anni, è durato solo qualche mese, però non avrei mai avuto il coraggio di staccare la spina. Per me è un omicidio di Stato. Buonasera. Va bene, la ringrazio. Credo, direttore, che abbiamo Stefano Folli, commentatore politico del Sole 24 Ore. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera, ciao a voi. Allora, la prima domanda è questa. Già nelle parole di alcuni esponenti del centrodestra, del PDL in particolare, soprattutto in aula il vice capogruppo Quagliariello e poi poco dopo al TG2 il capogruppo Gasparri, si capisce che nelle prossime ore, non Berlusconi al momento, anche se l'ha fatto forse intendere, ci sarà un'escalation politica da questo punto di vista, in particolare potrebbe essere coinvolto anche il capo dello Stato. Che ne pensi? Io penso che questo dovrebbe essere davvero il momento da parte della politica della massima sobrietà. Questa è una vicenda torneremo, rifletteremo, ma quello che è successo in questi giorni è qualcosa di molto concitato, di molto fuori dalle nostre tradizioni politiche ed istituzionali. Certamente c'erano in ballo cose molto importanti, drammatiche, tragiche, però come sempre succede quando dei valori si impossessa la politica in un modo così violento, poi succede che arriva un momento in cui bisogna invece interrogarsi sulla necessità di ritornare al senso della misura. Io temo invece che si stia percorrendo la strada opposta, che appunto sia vero che nelle prossime ore già abbiamo i segnali, gli indizi, conosceremo nuovi livelli invece di scontro politico e istituzionale. Io credo che tutto questo sia un gravissimo errore e faccia molto ma molto male alla nostra Repubblica, alle nostre istituzioni. Eh sì, perché già nei resoconti delle agenzie di stampa che vengono dalla Camera, dal Senato anzi, Stefano, apprendiamo di insulti, spintoni, grida, commessi che sono stati costretti a dividere i vari schieramenti dopo l'intervento di Quagliariello. Insomma, c'è un clima che soprattutto dopo un annuncio dato in diretta al Senato non ci dovrebbe essere. Ma insomma bisogna essere assolutamente fuori dalla logica politica per dividere in questo momento il Parlamento e addirittura gli italiani, ma restiamo al Parlamento, tra fautori della vita e sostenitori della morte. Ma questo è assurdo perché della legge che doveva eventualmente tenere Luana nella sua condizione di vita vegetativa, impedendo quindi la sospensione dell'alimentazione, di questa legge si è cominciato a parlare pochi giorni fa. Questo Parlamento che adesso addirittura pretende di dividersi tra sostenitore della vita e fautore della morte, per anni si è disinteressato del problema e si è disinteressato della questione fondamentale del testamento biologico o della legge sulla fine della vita, come preferiscono dire gli esponenti della Chiesa, ma sta di fatto che il Parlamento ha totalmente rinunciato a svolgere questo suo compito. Quindi dopo una concitatissima polemica che comunque riguarda gli ultimi giorni, adesso si pretende addirittura di ergersi a paladini della vita contro la morte. Mi sembra francamente fuori luogo. Sì, indubbiamente Stefano, sono d'accordo, sono Fabio appunto, e sono d'accordo sul fatto che la politica in questa fase debba fare un passo indietro per poi fare un passo in un'altra direzione, non nella direzione dello scontro ma nella direzione della ricerca di un'intesa sui valori di fondo, che non può non esserci un'intesa di civiltà su temi come il testamento biologico, come appunto i temi etici. Ma allora, Stefano, chi può fare, chi deve fare un passo indietro in questa fase? Possiamo chiedere alle forze politiche di tornare a un confronto serio, costruttivo, anche forte indubbiamente, ma però che abbia come finalità non quello di affermare una posizione a tutti i costi, ma di affermare una crescita sociale complessiva. Stefano. Sono assolutamente d'accordo. Devono fare un passo indietro tutti coloro che hanno usato in queste ore e che si apprestano a usare ancora domani i toni sbagliati. Insomma, dopo 50 anni, 60 anni di Repubblica in cui il patrimonio comune del paese, morale è stato garantito da un certo equilibrio tra laici e cattolici, diventa assurdo adesso pretendere di nuovo di dividere il paese in nome di un patrimonio di valori che invece deve essere sostanzialmente condiviso ed è sostanzialmente condiviso. Ci si può dividere su alcuni aspetti che riguardano il testamento biologico o la gestione di malati terminali, ma certamente non ci si può dividere tra sostenitori della vita e fautori della morte. Questo è una strumentalizzazione politica assurda che farebbe molto, ma molto male, ripeto, al nostro comune sentire, al nostro comune essere italiani e a riconoscerci sostanzialmente nelle stesse istituzioni e, ripeto, negli stessi valori. È stato così per circa 60 anni, non riesco a capire come sia possibile che questo patrimonio comune, che è un patrimonio di civiltà, che mi pare tra l'altro è anche, riguarda un po' anche, diciamo, l'insieme dei paesi europei, dei paesi occidentali, possa essere messo in discussione. Ecco, un'ultimissima cosa, Stefano, e riguarda alcune dichiarazioni che stanno uscendo di esponenti del PDL, cioè addirittura chi dice la tragedia si è consumata, non riuscendo a debellare la malattia, hanno debellato Eluana, la decisione di Napolitano appare ora decisiva e gravissima dinanzi a Dio e agli uomini, davvero egli rappresenta l'Italia. Cioè, evidentemente ci sarà un attacco fortissimo al Presidente della Repubblica, non so quando... Sì, io me lo aspetto, purtroppo alla luce delle cose che stiamo dicendo e di quello che le agenzie di stampa ci offrono in questi momenti, io temo che si realizzi quello che già paventavo l'altro giorno, cioè che il primo attacco al Presidente della Repubblica per la storia della mancata firma sul decreto fosse soltanto l'antipasto di quello che verrà, che sarebbe venuto dopo, e infatti sta venendo fuori questa cosa. Ma questo, ripeto, è un errore politico di cui credo che la maggioranza porterà poi la responsabilità, perché non si può mettere in crisi l'equilibrio complessivo dei poteri e quindi, diciamo, l'istituto della presidenza, di garanzia della Presidenza della Repubblica su una questione del genere, una questione così controversa e così suscettibile di dividere il paese. Io spero, sono quasi convinto, che Berlusconi capirà che non è nella suo interesse, nella sua convenienza percorrere questa strada. Posso capire che sull'onda emotiva di questa tragedia, di questa tristissima fine di Eluana Englaro ci siano anche dei toni sbagliati. Spero fortemente che domani questi toni vengano corretti e soprattutto eviti di aprire un secondo fronte dopo quello dell'altro giorno che vada direttamente alla Presidenza della Repubblica. Non è di questo che abbiamo bisogno. Bene, grazie a Stefano Folli, 21:23. Siamo in diretta fino alle 22, ripeto, per parlare con voi, non dico nemmeno commentare, per conversare con voi sulla morte di Eluana Englaro, intorno alla morte di una donna dopo 17 anni di coma vegetativo. Eluana Englaro si è spenta poco dopo le 20 alla clinica La Quiete di Udine, dove addirittura le telecamere del TG4 insistono in diretta da circa un'ora. Adesso c'è in diretta Umberto Tirelli dell'Istituto dei Tumori di Aviano, ma io tornerei sui nostri ascoltatori. Forse, direttore, vogliamo ascoltare una delle reazioni politiche più importanti da parte di Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, che pur essendo all'opposizione cosa ha detto nelle ultime ore, che avrebbe certamente votato il disegno di legge del governo. Casini, sentiamo. Una legge che dovevamo fare molto prima, solo negli ultimi giorni l'attenzione dell'opinione pubblica su questo caso ha portato il Parlamento ad assumere un'iniziativa. Noi siamo stati in ritardo, colpevolmente in ritardo, tutti noi in ritardo, maggioranza e opposizione, tutti coloro che hanno ritenuto che questo problema, che i problemi eticamente sensibili non dovessero far parte dell'agenda politica. No, i problemi eticamente sensibili riguardano la vita e la morte dei cittadini, debbono essere sempre i primi all'ordine del giorno nella politica, se non vogliamo essere distanti in modo siderale nel rapporto con la gente e con l'opinione pubblica. Questa sera è morta una ragazza, siamo tutti sconfitti, noi dobbiamo onorarla continuando i lavori parlamentari. Se è stata ammazzata, è stata ammazzata dalla nostra ipocrisia e dai nostri ritardi. Dovevamo arrivare molto prima, non 3 giorni fa. Dovevamo assumerci la responsabilità di legiferare e da cristiano dico: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora, abbiamo Vincenzo da Milano, Diego da Napoli, Francesca da Milano e altri ancora, però mi sembra, direttore, che da parte del leader dell'UDC ci sia almeno una missione di responsabilità sui ritardi della politica. Sarà sicuramente uno dei temi dei prossimi giorni. Sì, questo secondo me è importante, può essere significativo che Casini, che ha detto in questa dichiarazione, ha detto anche prima, che è il momento del dolore e della serietà, che bisogna tornare appunto a discutere pacatamente di questi temi, e può essere certamente un richiamo anche come quello che ha fatto il Presidente del Senato Schifani, che ha detto che il modo migliore di ricordare una persona che non c'è più è di dare al Paese l'immagine di un Parlamento che si assume le sue responsabilità. Ecco, le responsabilità in questa fase sono quelle di una politica che deve riprendere il filo di una rappresentanza del Paese, deve riprendere il filo appunto di saper valutare, saper offrire al Paese le risposte di cui il Paese ha bisogno anche su questi fronti, dando delle certezze, dando la possibilità appunto che la scienza faccia il suo corso, che la sanità sia efficiente, sia efficace, che ci sia il sostegno per tutti, ma che ci sia anche il rispetto per tutti quanti, per le scelte di ciascuno, per le scelte che la Costituzione garantisce, le scelte che una legge sul testamento biologico dovrebbe poter rendere efficaci e valevoli per tutti, di fronte anche ai progressi appunto della scienza, per evitare quello che viene chiamato l'accanimento terapeutico. Non è questo forse il caso di Eluana, però il caso di tante persone, e in questa società che deve essere più libera, ma deve essere anche più forte, la politica ha un dovere molto grande, e speriamo appunto, come dicevamo con Stefano Folli, che la politica possa fare un passo indietro e tornare al dialogo, tornare al confronto, tornare alla costruttività e non alle accuse reciproche. I primi segnali non sono positivi, però forse sono dichiarazioni a caldo quelle del Senato, qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Andiamo a sentire gli ascoltatori e ripartiamo con Genova. Gianfranco, buonasera. Poi abbiamo Diego da Napoli, Mario da Rovigo, Francesca da Milano, Vincenzo da Milano e altri da sentire ancora. Andiamo. Crociani, buonasera. Grazie prima di tutto per essere, come si dice giornalisticamente, rimasti sul pezzo e dandoci la possibilità di dare la nostra testimonianza. Io sono allibito, come dicevo alle redattrici, che grazie hanno ricevuto la telefonata, di una cosa che fondamentalmente per me manca una sorta di rispetto. Dicevo appunto alle redattrici che tecnicamente noi abbiamo ancora un corpo che è ancora caldo e tutti quanti stanno tirando questo corpo da una parte all'altra. Si tirano i vivi per la giacchetta e noi tiriamo questa ragazza, dopo tutto quello che ha passato lei in questi anni, cosciente o non cosciente, tutti quanti per la giacca. Le uniche parole che sento di saggezza vengono da voi giornalisti e non da chi ci rappresenta nelle istituzioni. Tutti quanti cercano subito un colpevole, colpevoli, autopsie, questo e quell'altro, e non dico che questo sia sbagliato, per carità, ma questo credo che sia il momento della riflessione, del dolore, e lo dico laicamente, cioè essendo, non dico ateo, ma sicuramente laico, mi trovo molto in difficoltà che davanti a una cosa come la morte tutti quanti abbiano iniziato a gridare al lupo, al lupo, al lupo. Io sono d'accordo che si faccia un'autopsia, che un magistrato faccia chiarezza se questa morte è arrivata troppo presto, se è stata provocata per non aspettare una legge, ma questo dopo. Tecnicamente il corpo di questa ragazza è ancora... Sì, lei ha ragione, naturalmente in linea teorica sarebbe fantastico che tutto accadesse nella tranquillità, nella correttezza e se vogliamo anche nel silenzio. Diciamo che in questa vicenda ormai il silenzio è impossibile già da diverso tempo, e dunque ci sono in mezzo anche le speculazioni politiche, non c'è dubbio, ma anche le legittime battaglie politiche. Mario da Rovigo, buonasera. Buonasera. Pronto? Pronto? Dica Mario. Non sentivo, scusate. No, mi scusi, ero distratto io perché stavo cercando di vedere una cosa in televisione sullo schermo, altri canali collegati. Prego, Mario. Ok, niente, io volevo semplicemente esprimere al padre e alla famiglia. Vicinanza al padre e alla famiglia, sì. Esatto, e comunque trovo che questa sia, sono d'accordo con la scelta del papà, insomma, di Eluana, nel terminare la storia di Eluana così come lui ha capito che lei avrebbe voluto. Senta, non la spaventa, Mario, una domanda, non la spaventa il fatto che la volontà di Eluana Englaro sia stata ricostruita dopo molti anni anche attraverso il suo stile di vita, la sua personalità, insomma, che la ricostruzione di una volontà, una cosa fondamentale, sia una materia controversa? Oddio, la materia è certamente controversa, dopo ognuno la vede in base anche alla propria vita, alle proprie esperienze, se uno ce l'ha, la propria fede, però le dico una cosa, io lavoro in ospedale, sono infermiere e forse la vedo con gli occhi di chi ha visto situazioni simili, non dico uguale, ma simili, che creda generano solamente disperazione, perché sono situazioni in cui il più delle volte non c'è realisticamente un'uscita, e credo che la cultura della vita debba includere anche la morte, perché la morte non è qualcosa di staccato dalla vita, ma ne è la naturale conclusione, usando una parola un po'... è un concetto banale secondo me, però qui tanta gente è convinta che la morte possa sempre rimanere in un altro ambito, che non debba mai entrare, e invece a volte bisogna accettarla, e secondo me questa è la scelta del papà di Eluana, che ha accettato una conclusione inevitabile. Ho capito, la ringrazio, mi sembra un intervento molto bello il suo. Alle 20, poco dopo le 20, per chi ancora non lo sapesse, è morta Eluana Englaro nella clinica La Quiete di Udine, dove era ricoverata da qualche giorno. Da 4 giorni era stata interrotta l'idratazione e l'alimentazione, proprio mentre il Senato stava discutendo, ci sarebbe stato un voto domani alla Camera mercoledì, già calendarizzato, su un disegno di legge che avrebbe impedito, qualora fosse stato approvato, di concludere la vicenda in questo modo, cioè avrebbe impedito la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione per Eluana Englaro. In questo caso avrebbe ripristinato l'alimentazione e l'idratazione nei confronti di Eluana Englaro. La scelta dell'informazione, in questo caso la nostra scelta, è stata quella di continuare con voi fino alle 22, naturalmente poi con tutte le notizie nei giornali radio su questa vicenda drammatica. Rai 1 ha scelto di portare Vespa in prima serata e da poco ho iniziato porta a porta. Sentite. Probabile della morte e l'insufficienza renale acuta e quindi il conseguente arresto cardiaco. Quindi lei aveva la sensazione che tutta questa corsa, diciamo, del Parlamento per fare una legge che arrivasse in tempo era una corsa forse fin dall'inizio destinata? No, aveva un suo fondamento questa rincorsa, proprio perché... Sta parlando Dario Caldiroli, che è un tecnico di rianimazione, un medico specializzato in rianimazione, e che sta spiegando uno dei punti di cui si parla in queste ore, cioè la velocità con cui, rispetto a tutte le previsioni, rispetto a quello che si diceva, rispetto alle parole degli esperti che abbiamo sentito, la velocità con cui è morta Eluana Englaro. Vi dicevo però della scelta dell'informazione in questo caso. Rai 1 dunque ha anticipato porta a porta in prima serata. Canale 5, che è l'ammiraglia Mediaset del secondo grande gruppo nazionale di informazione televisiva, manda invece il Grande Fratello, dove c'è stato, continua a mandare il Grande Fratello, dunque non ha interrotto la normale programmazione. All'inizio del Grande Fratello c'è stato, diciamo, un applauso, un annuncio da parte di Alessia Marcuzzi, che è la conduttrice del Grande Fratello, della morte di Eluana Englaro. Ragazzi, vi lascio, torno fra poco. Va bene, continua il Grande Fratello dunque su Canale 5, eccetera eccetera. Alle 21.38, direttore, torniamo agli ascoltatori con Diego da Napoli. Diego, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, grazie, e buonasera al pubblico. Niente, io devo dire che finalmente mi sento sereno e tranquillo per aver appreso della morte di dell'Englaro. Finalmente ha finito di soffrire da 17 anni in quel modo. Io le dico perché in qualche modo i letti degli ospedali ne ho passati parecchi, ho avuto un linfoma che mi ha massacrato per anni e so che cosa significa stare in un letto fermo. Non c'è, cioè, sono arrivato io al limite, figuriamoci una persona che sta 17 anni ferma in un letto, diventa una larva, diventa una cosa che non si può dire. Io sono per la scienza, io sono per le macchine che tengono in vita le persone, ma se poi c'è la speranza, se poi ti aggiusta, se poi guarisci, non che poi ti rovina e e tutto si sfascia. Quindi io penso che la scienza deve andare con l'epoca che siamo oggi, e se adesso è affacciata l'eutanasia, allora l'eutanasia che ben venga. Beh, Diego, naturalmente io rispetto profondamente il suo parere. Io non so perché lei dice io sono sereno e tranquillo. Io di fronte ad una vicenda del genere comunque non posso dire di essere sereno e tranquillo, perché mi ha molto colpito. Abbiamo parlato di vita e di morte anche in una trasmissione un po' bizzarra come la nostra serale, ne abbiamo parlato a lungo anche in tutte le altre trasmissioni della radio in maniera molto più approfondita, però mi ha molto colpito il lancio della prima agenzia alle 20:20 sulla morte di Eluana Englaro, perché di morte si stava parlando, perché il titolo era Eluana è morta, questo significa che se è morta c'era una persona viva e dunque non posso essere sereno e tranquillo. In ogni caso c'è una dichiarazione importante che è la prima direttore, sì, del Presidente della Repubblica, dopo essere stato praticamente criticato anche in maniera piuttosto forte da alcuni esponenti della maggioranza. Certo, Napolitano ha dichiarato all'ANSA: dinanzi all'epilogo di una lunga tragica vicenda, il silenzio che un naturale rispetto umano esige da tutti può lasciare spazio solo a un sentimento di profonda partecipazione al dolore dei familiari e di quanti sono stati vicini alla povera Eluana. Questo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, una dichiarazione molto, molto secca ma anche molto efficace, richiama alla necessità del silenzio, un silenzio che appunto vuole essere non tanto un ritirarsi di fronte al problema quanto lasciare aperto appunto lo spazio a una domanda a cui poi deve rispondere la coscienza di ciascuno. Ecco, io non sono d'accordo con te, Beppe, non dobbiamo essere forse tranquilli di fronte a questa vicenda. È una vicenda che scuote le coscienze di tutti, che ha scosso le coscienze di tutti e che deve comunque insegnare qualcosa, insegnare il rispetto, insegnare i valori, insegnare forse che la politica ha dei doveri verso tutti noi, perché tutti noi dobbiamo essere rappresentati dalla politica, dobbiamo sentirci rappresentati dalla politica. La politica deve aiutarci, deve aiutare tutti a vivere meglio la libertà e i valori di ciascuno. E andiamo a sentire con un collegamento dalla clinica La Quiete di Udine, dove tutto si è svolto negli ultimi giorni. Ricordate che prima era stata incaricata da parte della famiglia un'altra clinica, che poi dopo alcune affermazioni del ministro Sacconi non aveva più dato la propria disponibilità. Dopo alcuni giorni il trasporto di Eluana Englaro alla clinica La Quiete di Udine, dove si trova il nostro Andrea Saule. Buonasera. Ciao. Cosa Ciao sta avvenendo in questo momento? Dalle immagini che abbiamo visto e che continuiamo a vedere, credo, in diretta con Rete4, adesso non più, ma comunque fino a pochi istanti fa c'erano le telecamere di Mediaset, di Rete4 in diretta, ci sono degli assembramenti di persone. Sì. Quante persone ci sono davanti alla clinica? Sì, ci saranno 200 persone abbondanti, c'è un silenzio irreale assolutamente, e poi soprattutto ci sono le due, chiamiamole fazioni, se così si possono dire. Su un marciapiede ci sono quelli sostanzialmente che sostenevano che Eluana non dovesse morire, e sull'altro marciapiede ci sono quelli invece che sostenevano sostanzialmente la scelta di Beppino Englaro, con tanto di striscioni. Però tutto si sta svolgendo in silenzio. Alla notizia della morte di Eluana le campane hanno suonato a morto, e adesso c'è un po' una situazione appunto surreale, perché ci sono un sacco di voci che girano, nel senso che ci sono gente che dice che Eluana è morta per la volontà di Dio, così come certa gente in questo momento sta dicendo che Eluana è stata addirittura avvelenata. Quindi ovviamente sono le persone, non sono voci ufficiali, sono tutto quanto voci che si stanno ricorrendo in questo momento. Sì, naturalmente noi seguiamo anche queste vicende attraverso le agenzie di stampa. Sembra, da quello che ci stai raccontando Andrea, una situazione simile, perché due fazioni anche fisiche si erano create nel caso di Terry Schiavo, una vicenda che è stata chiamata in causa più volte negli ultimi giorni. Però anche lì, negli ultimi giorni, negli ultimi giorni di Terry Schiavo, davanti al posto dove poi è morta, si erano proprio create fisicamente due, tra virgolette, fazioni, perché al contrario di quello che è avvenuto questa sera al Senato, dove si è sfiorata la rissa, per fortuna tutto si svolge davanti alla clinica La Quiete, appunto nella quiete, nella tranquillità. Naturalmente esatto. Le persone che sono andate lì esprimono le loro idee in piena libertà, senza però contrapporsi fisicamente. Questo mi sembra importante, perché non è assolutamente il caso, no? Non si siamo in uno stadio, voglio dire. E ci sono un sacco di cartelli, c'è un cartello che scrive 60 milioni di cittadini, 60 milioni di emendamenti, e sotto una decina di persone che scrive Udine vicina a Beppino Englaro. Dall'altra parte invece c'è un'altra decina di persone che sorregge un enorme striscione con scritto per Eluana e per tutti noi. È un po' il movimento che si era fatto più sentire anche sui giornali per difendere, chiamiamo, la vita di Eluana Englaro. Ecco, volevo chiederti una cosa, magari mi è sfuggito nell'agenzia di stampa, c'è la possibilità che i medici vengano a fare delle dichiarazioni ufficiali oppure no? Assolutamente no, in questo momento assolutamente no, si parla di domani mattina. Innanzitutto dovrà essere redatto il referto medico, che sarà sicuramente sequestrato, così come la cartella medica, dall'autorità giudiziaria, perché sì, questo l'hanno fatto già capire chiaramente chi è uscito in questo momento. Pare che si ha già uscito qualcuno, però non si sa se fossero effettivamente le persone di turno, perché escono le macchine ed entrano, ma sono assolutamente blindate, nel senso non è possibile parlare con le persone che entrano o che escono in questo momento dalla clinica La Quiete. Bene, grazie. Questo è importante naturalmente, perché già ci sono decine di speculazioni sulla morte, come giustamente ci riferiva Andrea Saule, e anche le agenzie, sulla morte di Eluana Englaro, secondo alcuni troppo improvvisa, secondo altri è nel corso delle cose, e naturalmente una parola ufficiale deve essere detta dai medici che l'hanno seguita in questi ultimi giorni alla clinica La Quiete, e questo sicuramente deve avvenire e avverrà nelle prossime ore. Sempre accanto a me il direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Sentiamo, direi, direttore, prima di tornare subito agli ascoltatori che sono in linea già da diversi minuti, una frase che ha suscitato molto polemiche in Senato, di cui parlavamo prima, è stata pronunciata dal vice capogruppo del PDL Gaetano Quagliariello ed è sembrata evidentemente un attacco diretto al capo dello Stato. Sentiamo. Noi dobbiamo considerare che dietro le scelte politiche ci sono delle persone umane, ci sta il sangue, i nervi, le speranze di persone in carne ed ossa. E in questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche, e queste decisioni politiche hanno avuto delle responsabilità. Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata, e per quel che ci riguarda lo diciamo noi, non ci stiamo. Va bene, questo Gaetano Quagliariello, vice capogruppo del PDL al Senato. È evidente che dietro ogni cosa, dietro ogni decisione politica c'è una responsabilità, questo va da sé, però naturalmente la frase successiva, Eluana Englaro è stata ammazzata, sembra un riferimento diretto a una decisione politica che è avvenuta a un certo punto, che è stata quella di un decreto respinto dal Presidente della Repubblica. Sull'interpretazione di questa frase, direttore, non ci possono essere dubbi, no? Sì, direi proprio di sì, non ci possono essere dubbi, e indubbiamente è anche una frase nata sicuramente dall'emotività del momento, dalla volontà di riscaldare gli animi, ma forse non ce n'era bisogno, e forse a questo si contrappone con molto significato il silenzio di cui parlava prima il nostro corrispondente da Udine, il silenzio delle due fazioni, pur divise, pur confrontate una di fronte all'altra, pur con posizioni molto diverse, però unite dallo stesso silenzio, unite dalla stessa volontà di ripartire non cercando di incattivirsi, non cercando di lottare uno contro l'altro, ma forse di guardare insieme nella stessa direzione, pur partendo da posizioni diverse. Ecco, questo silenzio può essere una punto di partenza, e forse le parole dette con grande emotività questa sera possono essere appunto catalogate tra le parole che si possono forse dimenticare. Che differenza tra una contrapposizione che c'è anche fisica a Udine e quello che è avvenuto, rissa sfiorata al Senato dopo l'annuncio, un secondo dopo l'annuncio della morte di Eluana Englaro. Ma torniamo agli ascoltatori, andiamo a Udine proprio. Alessandro, buonasera. Buonasera. Dica. Ma io sono stato alla manifestazione questa sera dalle 7 circa fino a quando è stato diffuso l'annuncio che Eluana non c'era più, e poi me ne sono subito andato, perché questo sembrava a noi, io ero naturalmente a sostegno di Beppino Englaro. Beh, naturalmente non è detto, però va bene lo stesso. Dal mio punto di vista. No, beh, certo. E ci sembrava il modo migliore per salutarla, rimanere lì in silenzio, evitare di rispondere alle provocazioni che poche però c'erano. Devo dire che io non ho avuto l'impressione di una di due fazioni opposte, perché innanzitutto noi eravamo circa 150-200, dall'altra parte c'erano dalle 5 alle 10 persone con un ragazzo molto con dei grossi problemi con le coperte, che poi a un certo punto è stato messo al riparo perché faceva troppo freddo. Vabbè, non ne facciamo una questione di numeri però, Alessandro. No, però per dire che non c'è stato un confronto tra due fazioni, l'una da una parte e l'una dall'altra. Le persone che pregavano per Eluana erano in chiesa, e a un certo punto, quando si è diffusa la notizia, è stata battuta la campana a morto nell'unica chiesa vicino, che è quella delle Grazie. E vabbè, non è che valgono meno di quelli che erano davanti alla chiesa, ma insomma non è una questione di numeri, Alessandro. Credo che noi, quando abbiamo detto che si sono contrapposte due fazioni, magari la parola fazione è anche sbagliata, ma lo volevamo dire nel senso, insomma, due gruppi di persone che la pensano in modo diverso sulla conclusione di questa vicenda, magari sull'idea di vita o di morte, non lo so, e che però non sono venute alle mani, o comunque non, i toni non sono stati accesi, e soprattutto hanno vissuto, credo lei ce lo può confermare, gli ultimi minuti o forse i minuti immediatamente successivi a quelli della morte di Eluana Englaro in un rispettoso silenzio, o sbaglio? Anche perché poi a un certo punto qualcuno ha provato ad accennare un applauso, che è stato subito zitto perché non era veramente il caso, e poi la maggior parte delle persone che manifestavano il sostegno a Eluana Englaro a un certo punto si è andate via, e quelli che vengono continuamente ripresi in TV, ho visto ancora credo che siano dei curiosi più che altro, non credo che siano... Va bene Alessandro, la ringrazio per questo racconto di quello che è avvenuto nelle ultime ore davanti alla clinica La Quiete. Vincenzo da Milano, prego. Buonasera, Vincenzo. Buonasera dottor Cruciani, a lei e al direttore. Dica. Io sono addolorato per Peppino Englaro, però finalmente ce l'ha fatta, e io sono con lui. Io mi vergogno del governo, perché è stato latitante per 17 anni, non ha fatto assolutamente nulla, e oggi voleva farlo in un'ora, se l'ha preso col capo dello Stato, che secondo me è la persona più giusta, perché ha meditato, non poteva firmare una cosa così nell'onda dell'emotività. Io ho un bambino portatore di handicap, so cosa passa un genitore, so dov'è lo Stato, a volte non c'è, e quindi io penso che si è fatta la volontà di Eluana, soprattutto perché l'aveva espresso quando era in vita con suo papà. E adesso la cosa che mi rammarica di più, questi dottori che dicono ma doveva campare a 15 giorni, doveva vivere forse 3, forse 4, forse l'avrà avvelenata, dovrà passare anche questa... No, guardi, l'avvelenamento, Vincenzo, è solamente una voce riportata prima dal nostro ascoltatore. No, per l'amor di Dio, stavo dicendo le voci che si sentono, ecco. Sì. E quindi nel dolore dovrà sopportare anche questo, signor Peppino Englaro. Io, da parte mia, è tutto il mio cordoglio, è tutto il mio affetto. Ho capito. Da Vincenzo, la ringrazio, do spazio ad altri ascoltatori. Francesca da Milano, buonasera Francesca. Buonasera, io volevo dire che onestamente sono veramente dispiaciuta e vicina sia alla famiglia che alle persone che hanno curato questa ragazza. Penso che andrebbe chiarito che fosse, come dire, la sentenza, cioè la linea di... trovo veramente disdicevole questo assassino, non assassino da una parte, perché in questo momento utilizzare queste parole. Esatto, in questo momento credo che sia per entrambe le posizioni che uno poteva sostenere nei confronti della famiglia, credo che in questo momento sarebbe meglio, come dire, la compassione. E, anche perché, se non ho inteso male, potrei sbagliarmi, magari lei lo sa, dottor Cruciani, la linea di demarcazione sul fatto che questa sentenza si sia, come dire, trascinata per anni era il fatto che non esisteva una prova certa della volontà di questa ragazza. Se fosse esistita, forse era più difficile tirare fuori questi termini. Spero, come dire, da quello che diceva il suo collega lì davanti alla clinica di Udine, che gli italiani siano un pochino meglio dei nostri politici che ci rappresentano, perché come dire, davanti alla... Io ho acceso la radio quando c'è stato, lei ha dato l'annuncio, e onestamente anche questo voler dare una responsabilità al Presidente della Repubblica in un paese dove siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo momento, forse... Ho capito, Francesco. Io non l'ho vissuto come Ponzio Pilato, l'ho vissuto come una persona che ha detto, va bene, un altro potere ha deciso, adesso non sta a me andare a cambiare tutte le cose. Un'ultimissima cosa, ho sentito l'intervento dell'infermiere di prima. Sì. Che ho trovato molto interessante, perché io sono, come dire, un malato cronico, negli ultimi anni ho subito 7 interventi e quando vengo operata passo diversi giorni senza alimentazione, se non appunto sali minerali, sì, queste, sì, cose. Vorrei dire una cosa, all'ultimo intervento ho chiesto perché mi facevano sempre firmare questa cosa, che se qualcosa poi andava male, ho detto, ma qual è la linea di demarcazione tra come dire, il fatto che possa succedere qualcosa? E l'anestesista mi ha detto, signora, mi ha detto, guardi, dipende molto dallo stato del suo fisico, cioè se lei va a fare un intervento in una condizione in cui ha un'insufficienza renale o qualche cosa di particolare, è ovvio che... Beh, certo, Francesca, è proprio per questo che oggi uno studioso della scienza della politica come Angelo Parebianco si dice contrario ad una legge sugli ultimi giorni di vita, proprio perché i casi sono diversissimi ed è difficilissimo comunque legiferare. Bene, abbiamo concluso, direttore, ci sono ancora Carlo da Milano, Maurizio da Piacenza, forse abbiamo il tempo per qualche secondo di sentire Carlo, ma davvero per qualche secondo, perché altrimenti finiamo in ritardo. Carlo, dica. Buonasera, sì. Io volevo spezzare una lancia in favore di quei politici che ancora un po' si menavano stasera. Perché? Perché... Ecco, questo è interessante, me lo dica. Secondo me è una reazione molto molto umana. Da una parte perché si sono sentiti accusati e dall'altra perché si sono sentiti praticamente defraudati, cioè gli è scappata quella vita sotto le mani. Io non voglio dire l'hanno ammazzata, non l'hanno ammazzata, anche se penso che... Ho capito, la posta era talmente alta che secondo lei è giustificata anche una reazione forte, una semirissa come c'è stata al Senato. La ringrazio, dobbiamo chiudere. Un ultimissimo commento sull'intervento di questo ascoltatore, direttore. Sì, un ultimissimo commento direi su tutti gli ascoltatori. È una vicenda indubbiamente di cui si parlerà ancora a lungo, ma una vicenda su cui bisogna affrontare tutti gli aspetti. Abbiamo anche conosciuto un paese, abbiamo conosciuto il fatto che ci sono centinaia di persone che vengono assistite quotidianamente con sacrificio, con fatica, con grande amore dalle persone, dei malati terminali che affrontano la loro sofferenza. Io ringrazio quanti ci hanno seguito, ringrazio soprattutto Beppe Cruciani per aver voluto e accettato di condurre la trasmissione fino a qua. Grazie a tutti, ci sentiamo con la Zanzara domani sera a 18:30, adesso il giornale radio delle 22, a domani.